è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Della liberazione, l'Italia liberata, evviva, finalmente, evviva, forse liberata, forse da Berlusconi, questo forse dicono quelli che hanno vinto le elezioni, l'Italia liberata da Trieste in giù. Sentiamo per esempio De Magistris, Napoli è stata liberata. Io sarò il sindaco di tutti, mi auguro che i consiglieri eletti dell'opposizione lavorino per un'opposizione concreta e abbandonino definitivamente ogni tentativo di metodo boffo che non appartiene alla cultura democratica di questa città. Napoli è stata liberata e questa secondo me è la cosa più bella di questa campagna elettorale. Ma liberazione da cosa secondo te? Liberazione dal malaffare? Da che cosa? Cioè, cosa, beh, qual per è Napoli, qual forse è l'idea, sì, che c'è dietro questa retorica della liberazione? La teologia della liberazione ha un suo fenomeno che è quello di aver preso Milano dal 93, che era governata dal centrodestra, e Napoli il vero outsider, il signor De Magistris, che sì, l'ha ma liberata. La retorica della liberazione so che non ti piace. No, la odio, so che non la sopporto. Non però la sopporto. Ti segnalo che proprio in questi momenti uomini del centrosinistra si stanno arrampicando sulle guglie del Duomo e hanno issato al posto della Madonnina una bandiera rossa e la bandiera dello Stato dell'Islam. Pisapia, già liberata Milano. Ma mi sembra che l'abbiamo già liberata Milano. Oh no. C'è anche la vittoria del centro-sinistra a Trieste e a l'altra città grossa, qual era? Cagliari. Cagliari, Sedda. Un'altra cosa ti voglio far ascoltare, Maurizio Lupi, che molti dicono al posto della Moratti avrebbe vinto. Vabbè, chissà, chissà. Oggi è tutto. Non si può ragionare con i se. È alla divina Otelma, capito oggi? Assolutamente, una previsione alla Otelma. Maurizio Lupi dice: abbiamo vinto a Cesenatico, Salso Maggiore, San Giovanni Rotondo. Ti giuro. Senti. Quando si legge Arco Redesio, forse è il caso, ma la Bindi, devo dirvi, che correttamente lo ha detto, forse è il caso di dire che a Cesenatico, che dal dopoguerra governava il centro-sinistra, ha vinto il centro-destra. Salso Maggiore, che governava il centro-sinistra, ha vinto il centro-destra. Dico, una città che a noi tutti è cara, credo, al centro-destra e al centro-sinistra. San Giovanni Rotondo governava il centro-sinistra, ha vinto il centro-destra. Compagni, avanti il gran partito. Noi siamo dei lavoratori. Senti come ha iniziato le sue trasmissioni a un certo punto alle 16:30, quando i risultati erano chiari, Radio Padania. Sentiamo. Compagne lavoratrici, compagni e lavoratori, a nome del Comitato di Liberazione Nazionale dal Berlusconismo, Leghismo Padano, vi do il benvenuto in questa città finalmente libera. Milano è libera. Pisapia ha vinto, è sindaco. E noi siamo liberi. Berlusconi è un ricordo, la Lega un po' meno, ma noi siamo finalmente liberi. Benvenuti su Radio Milano Liberata dal compagno Roberto Ortelli. Chi vi parla è stato autorizzato dal Soviet a diffondere questo messaggio di liberazione nazionale. Noi non siamo. Bene, questa è la Zanzara, 800 24 00 24, caro Parenzo. Qui studio a Milano e vi trasmettiamo noi dalla moschea di Viale Monte Rosa, sì, Viale Monte Rosa, dalla moschea, dalla nuova moschea di Viale Monte Rosa. Carlo Giovanardi, buonasera. No. Buonasera. In collegamento da casa sua. Dove si trova? Qui a Modena. Venga tra noi, Giovanardi. Io mi sto facendo una canna, Giovanardi. Venga a Milano. Venga tra noi. I cretini ci sono sempre. Nella stanza del buco. Venga con venga, noi. Venga, Giovanardi. A Milano sarà pieno di stanze del buco. Venga. Aspetti che un rom mi ha appena rubato il microfono. Giovanardi. Guardate che io a Modena ci sono abituato, che vinca la sinistra, ai 60 anni, quindi non è che la roba mi impressioni molto. No, ho capito, beh, mica crederà che Milano si riempia di si riempirà di stanza del buco, No, ma neanche credo, mi ricordo un mio amico negli anni 70, continuo sul tono che avete avuto voi, che quando c'erano le grandi avanzate del Partito Comunista, il martedì si divertiva andare dai suoi amici, contadini, operai, impiegati, ma come sei ancora oggi al lavoro? Ma come c'è ancora oggi tu datore di lavoro? Nel senso che va bene, giustamente voi enfatizzate con ironia, no? Per esempio, Napoli liberata dalla Iervolino. Ah, beh, certo, anche dalla Iervolino, anche dalla Iervolino, perché o dalla Anche dal Partito Democratico, anche dal Partito Democratico, che poi ha appoggiato De Magistris, però, Anche dal PDL, amico mio, comunque. Sì, no, PDL no, perché non governava. Scusi, ma mi dica la verità, Giovanardi. Un candidato diverso a Milano avrebbe avuto vita più facile, me lo dica sinceramente, ora che tu bisogna sempre, per dare un giudizio, bisogna avere il quadro complessivo, perché il mio amico Lupi ha fatto alcuni esempi, ma te poteva aggiungersi anche Cosenza, che da 3 anni era del da 30 anni del centro-sinistra. Fondamentale, Cosenza e Cesenatico sono Rovigo, fondamentale. Del centro-destra, poteva mettere la provincia di Reggio Calabria. Vabbè, comunque. Giovanardi, mi rendo perfettamente conto che queste città non tengono Napoli e Milano. Milano. Sì, non tengono sì. Il livello di Napoli e di Milano. Senta, ma lei è davvero diverso rispetto alla Moratti, avrebbe potuto fare meglio o fare peggio? Difficile dirlo. Cioè anche non Lupi non avrebbe vinto. Anche Lupi o altri. Anche Lupi o altri avrebbero avuto difficoltà. Forse Albertini, ma lì bisogna essere milanesi, perché è vero che nell'ottica cittadina solo il cittadino di Milano sa quanto Albertini, per esempio, sia o non sia nel cuore dei milanesi, quanto la Moratti o Pisapia siano nel cuore dei milanesi. Senta, mi dica la verità, Berlusconi si deve dimettere? Come esattamente come Zapatero, Obama e la Merkel, per dire tre che nelle ultime amministrative hanno preso delle stangate terribili. E dunque non si deve dimettere? Ma le risulta che Zapatero si è dimesso dopo il disastro totale di 10 giorni fa. Però Zapatero non si era candidato. Ma no, ma però Giovanardi, Zapatero, Berlusconi si è candidato a Milano e ha dimezzato le sue preferenze e ha detto: mi vogliono fare la festa, votatevi perché sennò vado a casa. L'ha detto Berlusconi, non Obama, Zapatero, la Merkel. C'è stato anche un referendum su Berlusconi o no? Sì, è vero, ma quando ne abbiamo vinto in questi 3 anni le regionali, poi le comunali, poi le provinciali, poi le europee, non abbiamo chiesto la posizione di andare a casa. Quindi sono la quarta elezione. La posizione era già a casa, era già l'opposizione. Diciamo di medio termine. È chiaro, ci deve far lavorare in maniera tale che quando fra 2 anni ci saranno le politiche ci siano delle novità nel centrodestra, tipo nuovo leader, imparare la lezione che di queste grandi città, prendere atto che siamo ancora di gran lunga il primo partito italiano, a grande distanza viene il PD, che c'è un problema dell'estrema sinistra, dei candidati. Beh, a Milano no, Giovanardi, guarda che si parla del governo nazionale, no, governo nazionale, sta dicendo a livello nazionale. A Milano ha vinto, Milano adesso è del centro-sinistra, Napoli è del centro-sinistra, Roma è del centro-destra, Cosenza era del centro-sinistra, adesso è del centro-destra, Rovigo ha cambiato. Però scusi, Giovanardi, vuol dire che fra 2 anni, quando ci sono le politiche, bisogna presentare un leader. Il PDL ci dovrà porre la questione Di avere un nuovo leader? Un nuovo leader? No, intanto di fare un partito che funzioni, che abbia il tesseramento, che elegga da basso i suoi dirigenti. Sì, voglio dire, secondo lei Berlusconi si deve ripresentare o no tra 2 anni o quando Berlusconi sarà? Berlusconi deve creare le condizioni nel PDL per un congresso democratico che discuta, come in tutti i partiti democratici, quali sono le mosse migliori per il futuro. Sì, d'accordo, però adesso Giovanni, al di là della diplomazia, Berlusconi... Ma adesso c'è un governo, il governo Berlusconi di oggi va difeso fino alla fine della legislatura. Poi si valuterà assieme di qui a 2 anni, se è il caso di proporre una candidatura di Berlusconi. Ecco, ma secondo lei è il caso o no? Secondo lei è il caso o no? No, ma vedi, io sono sempre molto realista in politica. Se il candidato sostitutivo di Berlusconi piglierà meno voti di Berlusconi, e questo lo si vede dal radicamento, dai sondaggi, ecco, per andare a prendere, se invece sarà un candidato che trova l'accordo di tutti dello stesso Berlusconi e prenderà più voti, bisognerà muoversi in questa direzione. D'accordo, ma secondo lei oggi, dopo queste elezioni qui, la leadership di Berlusconi sta tramontando o no? Ma guardi, nel centrodestra il tramonto in politica viene già vaticinato dal 95. D'accordo, ma Casini e Mastella mi dicevano che Berlusconi era finito dal 95. Sicuramente Berlusconi, sono passati 20 anni, sì, ha governato, ci sono altri 2 anni di governo, deve pensare al futuro. Ma deve preparare anche la successione? Ma sicuramente, ma assolutamente. Deve preparare la sua successione. Quindi sono gli ultimi suoi 2 anni. Succede che un Papa, ne succede un altro nella Chiesa Cattolica, immaginate se in politica non si deve pensare alla successione, al rinnovamento e guardare avanti. E dunque Berlusconi deve preparare in questi anni la sua successione. Ma io che guardi che queste cose, gliel'ho dette pubblicamente, gliel'ho detto al congresso, gliel'ho detto davanti a tutti i giornalisti italiani, gliel'ho detto 1 milione di volte, mai ripreso da nessun giornale perché i giornali devono scrivere. No, ma è importante, che è importante. Pubblicamente sono tutti servili con Berlusconi. Gli ho detto al congresso, davanti ai gruppi dirigenti, quando se ne andò fino, che lui deve decidere se passare alla storia come Tito, che dopo di lui l'Jugoslavia si è frantumata, o come De Gasperi, che ha costruito l'architrave di un sistema che ha funzionato per 40 anni. Oggi il rischio è Tito, allora. Se il PDL non verrà costituito, cosa che vi ho ripetuto e continuo a dire, il rischio è Tito. Il rischio di Tito, nel senso che dopo Berlusconi, il centrodestra che è tenuto assieme da Berlusconi, che ha aggregato il PDL, fa la fine della ex Jugoslavia, chiaro, la Lega, il rischio è della frantumazione. Benissimo, dunque Berlusconi deve preparare da qui a 2 anni la sua successione. Andiamo al traffico e torniamo subito in diretta da questa Milano. Ormai. Milano come? Hola, goodbye. Si parla solo in arabo qui ormai. Traffico. Eccoci, 800 24 00 24, questa è la Zanzara in diretta da Milano. Giuseppe Cruciani, David Parenzo in collegamento da casa sua Modena, Carlo Giovanardi, sottosegretario del governo Berlusconi. Voglio capire, Giovanardi, una cosa velocemente: secondo lei i coordinatori del PDL si hanno da dimettere o no? Come dice qualcuno, Frattini già parla di un direttorio e anche di primarie, mi dica la sua. Guardi, c'è da cambiare sistema più che gli uomini. Le faccio esempio di Trieste. Se andrà a vedere le schede bianche, si accorgerà che a Trieste il centrodestra è ancora largamente maggioritario. Vabbè, avete però i gruppi del centrodestra di Trieste hanno litigato fra di loro. Bandelli aveva il 10% dei voti nel primo scrutinio, e viene dal PDL anche lui. E non c'è stato, quando un partito non fa i congressi, quindi non decide a Trieste democraticamente chi guida il partito, e si va soltanto per fazioni o attraverso meccanismi di collegamento con il centro, senza democrazia interna, poi alla fine, pur avendo una stragrande maggioranza, le divisioni... Dunque via i coordinatori? No. A me poi che vengono nuovi coordinatori, vecchi coordinatori, è il metodo che va cambiato. Bisogna fare il tesseramento, fare il congresso, eleggere i segretari comunali, provinciali e fare il congresso. Dunque primarie, anche per scegliere... Come tutti i partiti democratici del mondo. Anche per scegliere i leader primarie. Copiate... Ma quelli abbiamo scelto noi l'altra volta. Diversamente da Casini, che è leader massimo senza essere né segretario né presidente del partito. Ma come l'avete scelto? Cambia la linea politica e non ha mai fatto un congresso? Lo so, perché l'ultimo l'ha anche nel PDL non è che c'è il massimo della democrazia. Detto, dal congresso c'erano i delegati, abbiamo eletto l'ufficio di presidenza. Ma ha fatto il partito sul predellino, dai Giovanardi. Abbiamo fatto il congresso ed è stato eletto il presidente, ed è stato eletto l'ufficio di presidenza. Non sono state fatte invece le elezioni né dei segretari provinciali. Comunque questi sono dettagli tecnici, sono dettagli di organizzazione. E bisogna farlo. Allora Giovanardi, intanto Deborah Serracchiani scrive, europarlamentare del PD, oggi in Italia si respira un'aria di libertà. Però devo dire la verità, anche l'altro ieri c'era l'aria di libertà, caro Parenzo. Ma usciamo dalla metafora. È la retorica della libertà nuova, della liberazione, che è ridicola. Diciamo, questa cosa qui, questa retorica che si capisce, siamo nel dopo elezioni, la vittoria può dare anche alla testa, per carità. Però l'aria di libertà, non è che prima si fosse un'aria oscura. No, però il centrodestra usò lo stesso linguaggio conquistò Bologna con Guazzaloca. Quindi ci sta con Guazzaloca. C'è una piccola differenza. Qual è? Qual è? Che Bologna per 60 anni è stato governato dallo stesso partito. E qui per 20. Invece, in queste città di cui parliamo, sono 40 anni che viene governata alternativamente dal centrodestra o dal centrosinistra. Beh, Milano, 20 anni dal centrodestra. 20 anni centrodestra. Milano in tutta, fino agli anni 90. Beh, appunto, 20 anni. Governato dai socialisti. Senta, Giovanardi, una cosa. Ma mi dica la verità, hanno vinto a Milano e a Napoli anche un po' di lobby che lei non può sopportare, tipo le lobby gay? No, ma si immagina se De Magistris piglia 65% dei voti, ha preso i voti di De Mita, sì, ha preso i voti di Bassolino, ha preso i voti dell'UDC, ha preso i voti del PD, secondo, ha preso i voti che contano. Secondo lei, per esempio, a livello per esempio della DRO? Ha preso i voti dell'ex presidente di Confindustria, che in odio a Lettieri, ha fatto la campagna per De Magistris, quelli sono voti pesanti. Senta, ma succederà qualcosa dal punto di vista, per esempio, della droga o cose di questo tipo? Una cosa che succederà è che, avendo già De Magistris detto che non vuole i termovalorizzatori e non vuole le discariche, ha detto che la spazzatura di Napoli me la devo prendere io in Emilia Romagna. Vabbè, adesso quello vedremo che cosa farà. Ma dal punto di vista della droga, voglio capire, lei ha detto... La droga è un errore terribile, perché, avendo parlato di Spinello Libero, lui l'ha messo nel suo programma. Chi? Ma chi? Sì, l'ha messo De Magistris, l'ha detto lui nella intervista all'Espresso. Ma sono segnali devastanti che, mentre in controtendenza riusciamo, per fortuna, a convincere i giovani, cioè con De Magistris drogati, Spinello Libero, dice lei, vita, trovare qualcuno che racconta i giovani che invece la cannabis non fa nulla è un atteggiamento, diciamo, che a Napoli, cioè, hanno altri problemi che non lei, qualche canna, lei dice canna, con De Magistris se ci sarà vado a Scampia a vedere che c'è anche il problema, anche quel problema di cioè con De Magistris se le dice Spinello Libero. No, l'ha detto lui ha fatto un'intervista all'Espresso la scorsa settimana in cui nel programma ci ha messo anche quello. Non fate, se lui lo scrive, lo adesso, dice, adesso lo vado a recuperare. Non me la... mi pare strano che abbia detto Spinello Libero addirittura. Sì, insomma, sì. Ma... era la liberazione delle droghe. Ma se Pisapia pure, più droga a Milano? Pisapia è un altro di quello che sostiene la differenziazione fra le droghe pesanti e le droghe. Ho capito, ma non è che non è che al comune, il comune diventa una sorta di Porto Franco. Ma sono in Italia, essendo in Italia, devono sottostare alle regole italiane. Poi, se faranno delle forzature o se peglieranno delle decisioni che sono in contrasto con le leggi italiane e con l'atteggiamento complessivo di tutte le nazioni del mondo rispetto a questo problema, evidentemente noi diremo che non siamo d'accordo. Però guardi, i milanesi non hanno creduto a tutta questa cosa delle grandi moschee, della droga, delle lobby gay, cioè avete provato a mettere... Ma le lobby gay che c'entrano, scusi, con i milanesi? Perché no. a qualche giorno dalla chiusura... continua a essere contrario e a determinate... No, perché ha destato scandalo... reati di opinione in Parlamento, perché qualcuno vuole mettere in galera chi la pensa diversamente da lui. No, ma quello infatti... Beh, l'omofobia dovrebbe essere un reato, no, effettivamente. No, l'omofobia dovrebbe no. essere... Sì, c'era scritto, perché quelli volevano, con base a leggere i testi bocciati alla Camera, per vedere che diventava un reato d'opinione da denuncia penale. Vendola in Piazza del Duomo ha detto: fratelli musulmani, siete benvenuti in Italia. È bellissimo. Così, certo. In Piazza del Duomo. Lei condivide? Credo che la sottovalutazione di un problema che esiste in tutta Europa, cioè quale? Della presenza islamica, Magdalena non la mette in ridere questa cosa qui, forse c'è qualche... Cioè, lei dice che con Pisapia problema... ci saranno più estremisti islamici a Milano? No, non dico questo, dico che il problema è un problema serio che non va sottovalutato, e le sarebbe da ingenui pensare che un problema con cui si confrontano drammaticamente la Germania e la Francia, per non parlare della Bosnia e del Libano, non sia un problema molto serio anche da noi. Si vede che i milanesi non si sono fatti spaventare, però, cioè, evidentemente. No, i milanesi probabilmente hanno votato anche sulla base di tutta una serie di considerazioni. Per esempio, un Presidente del Consiglio tutti i lunedì deve andare in tribunale con accuse gravissime e infamanti, che si saranno provate, da ragione ai milanesi che sono indignati e scandalizzati. Se non saranno approvate saremo ancora, cioè, una colpa volta dei magistrati, ecco. Dice colpa dei magistrati. Dentro al catalogo di un'Italia in cui le persone vengono messe alla berlina, distrutte moralmente, e poi magari alla fine si scopre, cioè, scusi un attimo, non ho capito bene, dunque il voto dei milanesi condizionato anche dai magistrati, dall'inchiesta su Berlusconi? Scusi, secondo lei, se il Presidente del Consiglio tutti i lunedì deve andare lì perché lo accusano di essere uno che sfrutta la prostituzione o addirittura la prostituzione minorile, è una cosa che sulle elezioni non c'è mica una qualche influenza. Beh, mi dica che l'amministrazione Moratti magari è stata giudicata negativamente e punita per errori suoi, me lo dica Giovanardi, altrimenti sì. Ma non metto in dubbio, ma poiché tutte le elezioni cadono all'interno di un certo clima e di un certo meccanismo di condizionamento, è impossibile dire che quello che è accaduto a Milano, anche in riferimento al Presidente del Consiglio, non abbia avuto un riflesso sulle elezioni. Vabbè. Sarebbe anche difficile che... Ma al massimo stato... guardi che i milanesi si sono arrabbiati perché Berlusconi veniva qui il lunedì, faceva il suo comizio, bloccava il traffico davanti al tribunale, c'erano i milanesi che dovevano andare al lavoro, mica per i magistrati. Si era arrabbiato lui perché il lunedì, se fosse stato per lui, non ci veniva. Ma comunque non sono città meno frequentabili, no? Napoli e Milano. Tornerà a Milano, venga a Milano, dai. No, io credo che Berlusconi, vedi, questo atteggiamento, è no, atteggiamento... No, lei, venga a Milano, dai. Lei. Dopo la vittoria di Pisapia... Posso misurare torti e difetti di Berlusconi. Berlusconi è stato un milanese che per Milano qualcosa ha fatto, no, ho per capito. L'Italia qualcosa ha fatto. Sto dicendo, dopo la vittoria... Questo atteggiamento irrisorio, così, di battute facili... No, Giovanni, ha capito male, io sto dicendo, dopo la vittoria di Pisapia e De Magistris, non sono meno frequentabili Milano per lei, per esempio, no? A domande idiota, come devo rispondere secondo me? No, perché idiota, dito, sottosegretario? Perché idiota? No. Ma non c'è a superare l'idiozia di una domanda così. No, per dire, siccome avete detto... No, perché siccome in campagna, la domanda del direttorissimo ha una sua logica. Quando le domande talmente cretina... Ma siccome avete detto che... Ma avete detto che era la città dell'Islam, la città in cui dove ci sarebbe stata più droga... Lei avete detto, avrà detto, io non l'ho detto, quindi lei ha detto che... Scusi, in campagna elettorale. A casa sua hanno ammazzato 100 persone. Lei l'ha detto no, io non l'ho detto l'altro, allora perché sta a debitare a me cose no, che no, non giornale radio, torniamo tra poco. Eccoci qui dalla Milano liberata, caro Parenzo. Sempre qui, colonne. Che follia, colonne di zingari ed islamici. In rotta verso marciano Milano. Verso Palazzo Marino, colonne di islamici. Maristel Polanco. Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, al ballottaggio crollo della Moratti, grande festa a Piazza Duomo, la Lega campagna elettorale sbagliata. A Napoli trionfo di De Magistris con il 65%, Lettieri candidato del centrodestra si ferma al 34%, l'Italia dei Valori vince la voglia di cambiare. Disfatta del PDL, sconfitto anche a Cagliari e Trieste, Bondi si dimette da coordinatore, la Lega vince di misura a Varese ma perde Novara. Bersani è una valanga, il governo si dimetta, non ha più la maggioranza, Di Pietro vincono etica e morale, il terzo polo, gli elettori hanno scelto il cambiamento. Kamikaze e talebani attaccano la base italiana di Herat in Afghanistan, feriti 5 militari italiani, uno in gravi condizioni. Decisione radicale del governo di Angela Merkel, entro il 2022 saranno spente tutte le centrali nucleari in Germania. È morto a 82 anni Biagio Agnes, storico direttore generale della RAI, con lui se ne va un pezzo di storia del servizio pubblico. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello. Ecco le prime cretinate. Jack Lang, ex ministro della cultura socialista, ex direttore del Piccolo Teatro di Milano, ne ha detta subito una, fresca fresca, Sentiamo. Subito le prime stronzate. Ritroviamo l'Italia che amiamo. Questo poco, ma perché non c'è... Con questa vittoria ritroviamo l'Italia che amiamo, l'Italia dell'intelligenza, della bellezza e del progresso, che alla fine sconfigge la volgarità berlusconiana. Posso dire che è una stronzata o no? Sì, no. No, su questo mi devi dare ragione, è una stronzata colossale, di la sì, verità. Sì, però che è stata sconfitta la volgarità è vero, la volgarità della menzogna è stata sconfitta. Ma non di dire, chi... ma lo, lo sì, dici sì, senza sì, convinzione, no, lo dici no, senza convinzione, lo sai bene. Perché no, hanno no, detto, no. Perché i milanesi... La volgarità, no, le volgarità le dicono tutti, no, le è dicono stata tutti. Una campagna elettorale volgare, hanno detto che qui si sarebbe costruita la più grande, ma stai giocando, no, no, no. Stai giocando, la dai, sarebbe stai diventata giocando. La Mecca Milano, la Mecca d'Italia, Milano. Questa non è volgarità, è propaganda, è non è volgarità. Propaganda volgare. Ma che propaganda è volgare? Paura, è propaganda, la paura, l'odio. Ha vinto un'altra cosa, ha vinto Pisapia, l'avvocato di De Benedetti, un borghese, un uomo che sorride. Vabbè, non fare propaganda adesso, l'uomo che sorride, è sempre l'ufficio stampa di Pisapia. Un uomo che sorride. Voilà, zingari, un uomo che sorride. Rom che rubano microfoni a Radio 24. Un uomo che hanno sorride. Ma ti rendi conto che sorride. La Moratti non ride. Ma stai non ma ride sei mai. Sei meglio per fatti assumere da Baruffi. La Moratti non ride che, mai. Che è il capo dell'ufficio stampa di Pisapia. Lady Petrolio è stata sconfitta. Vabbè, senti, ha Giuliano vinto Ferrari, l'avvocato inchinati. Di De Benedetti. Inchinati a ciao Moratti, ciao. Ma sei peggio no, di sei, ciao, sei ufficio propaganda di Pisapia. Mi hanno rubato il microfono. I tuoi rom mi hanno rubato il microfono. Non posso più parlare. Deve reimparare la cosa che è stata all'origine della sua vittoria, parlare con gli altri, con gli avversari, con la gente, con gli interlocutori, entrare in contatto, basta con un Berlusconi che sembra un'opera di Madame Tussaud del Museo delle Cere. Basta Berlusconi da Museo delle Cere, come dargli torto, come dargli torto. Berlusconi non può fare 25 interviste senza dire nulla, senti questa, Ferrara scatenata. Berlusconi non è il politico che può negoziare adesso con Bossi i termini di una tregua, con le diverse correnti del PDL i termini di una ricomposizione burocratica. deve fare qualcosa, non può stare zitto un'altra settimana per poi dare 25 interviste ai telegiornali e non dire assolutamente niente. È assurdo solo pensarlo. Primaria nel PDL, si è la conversione alle primarie di molti nel PDL, in realtà Ferrara lo dice da tempo, comunque. E l'unica cosa seria che può fare è questo, cercare una pacata, seria, profonda, responsabile rilegittimazione della sua leadership, con primarie aperte a tutti gli elettori del centrodestra e del Popolo delle Libertà, e deve fissarne la data subito, non c'è un minuto da perdere, secondo me. Primarie del PDL, dunque, per la successione lo stesso Berlusconi, ma però non si immagina un Berlusconi candidato alle primarie, cosa che mi sembrerebbe francamente difficile. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Qualcuno dice che dovevamo reagire in maniera più forte, più vigorosa alle parole di Mario Borghezio della settimana scorsa. Ho sentito questa parola. Quelle su Mladic, che in maniera, devo dire, scandalosa, un giornale che non nominerò, pur mettendolo in prima pagina, non ha citato la fonte, ma ce ne freghiamo, lasciamo perdere. Giornale di proprietà di una persona che hai nominato prima. Noto ingegnere. Il signor Borghezio, Borghezio, che ha detto una stupidaggine clamorosa. Mladic patriota, sentiamo. Mladic, no, che è stato arrestato, per voi è un patriota? Ma i patrioti sono sempre patrioti, non ho visto le prove. Sinceramente penso che Mladic sia oggetto di accuse politiche. Mladic, fino a prova contraria, lo considero un patriota serbo, una persona che forse, sottolineo forse, è oggetto di accuse non... di persecuzione politica, di persecuzione. Sarebbe bene fare un processo equo e possibilmente che i viti non fossero sempre processati dai viti. Cioè l'AIA è una farsa, il Tribunale dell'AIA è una farsa, non ha alcuna fiducia. Poco sopra lo zero. Questo è Borghezio, i serbi potevano fermare l'avanzata islamica, non hanno... no, non è stato permesso ai serbi di finire il loro lavoro, tanto per ricordare alcune cose. Cosa allucinante. I serbi sono stati quelli che hanno fermato l'avanzata islamica in Europa? Io sono convinto che sarebbero potuti essere quelli che fermavano l'avanzata islamica in Europa e non li hanno lasciati stare. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Eccoci qua, poi ci sono i cretini sempre in libertà, sconfitto clamorosamente anche Cruciani, ti rendi conto? Vabbè, questo cosa c'è? La gente è pazza. Eri candidato alle elezioni, non sapevo. No, non ero candidato. E soprattutto non faccio il tifo per nessuno. Questo no, è questo è fatto. La differenza allora, mia che forse... Senti questa cosa un po' qui. Di tifo per la Moratti l'ho fatto. Gad Lerner nel suo blog. Mario Borghezio fa ridere? No, o almeno non più. Dichiarando solidarietà al criminale esecutore della cosiddetta pulizia etnica, Radko Mladic, da lui elogiato per radio come un vero patriota, il deputato europeo della Lega Nord, per quanto mi riguarda, esce dal contesto degli interlocutori tollerabili. Per quel poco che vale, non lo vedrete mai più seduto nello studio dell'infedele. Sono curioso di vedere se il giudizio espresso da Borghezio su Mladic diverrà un'espulsione, una censura, una presa di distanza dei dirigenti del partito in cui milita. Ora, devo dire la verità che, a proposito di posizioni estremiste, non è che ospiti di varie trasmissioni siano da meno. Io sono per la libertà di espressione di Borghezio anche quando dice delle cose estreme. No, ma certo, ma diciamola tutta. Gad Lerner, giustamente, ha ospitato nel suo studio una persona che si chiama Tony Negri, che sicuramente non ha fatto nulla più di volte, più sì, volte. Più volte, ma nulla di paragonabile a Mladic, per carità di Dio. Però è il signor Tony Negri che io ospiterei ogni giorno. Avrà detto delle cose più, diciamo, tra virgolette, pericolose di Borghezio o era no? Era il leader di Potere Operaio, il professor Negri, a cui io voglio molto bene, peraltro, che è anche simpatico, secondo me. Però voglio dire, se dovessimo perché fare... il fatto che tu voglia bene a Tony Negri, la cosa mi inquieta abbastanza. Ovviamente ci scherzo. Quante volte ti ho detto, ospitiamo alla Zanzara il professor Tony Negri? 800 24 00 24, Giuseppe da Napoli, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Guardi, un intervento... Sento già profumo da Napoli, profumo sento. Che profumo è? Profumo! Sì, fa ragione, come sempre, acutissimo. Acutissimo, ha vinto il 65%, non mi pare. Lei sarà tra quel 65% capodoro dei Magistris, immagino, no? Beh, sicuramente sì, però vede, il fatto è questo. Io più volte ho sentito dire... un pochino dai suoi ascoltatori che ognuno ha il politico che si merita, e questo in riferimento sempre ai fatti spiacevoli che succedono nella politica a Napoli. Mi confermerà questa cosa, credo. Giuseppe, andiamo al sodo. Qual è il suo intervento? Vabbè, mi spieghi, perché non capisco. Propedeutico, qui non c'è niente allora, di propedeutico. Cioè... Ma sì, perché nel momento in cui si presenta qualcuno di diverso, spero che sia anche poi alla fine si dimostri credibile come quello che dice di essere. Ah, vedremo questo, nel governo dicerei, no? Vedremo. Nel governo, sì. No, sicuramente, insomma, è uno che ha fatto delle battaglie e il voto almeno se lo merita per questo, poi vabbè, sarà tutto da vedere successivamente. Però, dicevo, nel momento in cui si presenta qualcuno di diverso, la povera città di Napoli, tanto martoriata, allora? Cerca di votarlo, cerca di accoglierlo. All'epoca si presentò Bassolino e delle cose le fece, poi fece la fine che ha fatto, vabbè, lo sappiamo. Ma che mi vuole dire, Giuseppe? Non ho capito bene che cosa noi mi vuole dire. Noi ci proviamo al cambiamento. Ah, ci provate, va bene. Con De Magistris ci provate. Per tanti anni. Bocca al lupo. Vedremo. Dario da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera anche a Parenzo, anche se non mi va di salutarlo troppo perché non lo saluti troppo, non... lo saluti normalmente, lo saluti in arabo. Lo saluti in arabo. Senta, io sono uno di quelli che ha votato la Moratti o in Rom. Sì, o in Sinto. Questa è la cosa che volevo dire. Una trasmissione intelligente, finalmente lei l'ho vista in faccia per la prima volta a Omnibus. Bene. Una trasmissione intelligente deve dare un contributo alla politica, anche quando ma io non devo dare nessun contributo alla politica, non la faccio trasmissione, non voglio, è lei che deve non dare... voglio cambiare, no, la è, politica, lei, abbia pazienza. Non è che lei deve dare il contributo, è una trasmissione intelligente che deve dare un contributo alla politica, alla città, al paese. Non mi pare. Quello che fa Parenzo, mettere in vacca, far fare delle figure da stupidi agli ascoltatori che telefonano. Ma guarda che lo faccio anch'io, lo faccio anch'io, lei si sbaglia. Allora dividete, io ad ascoltatori e politici, a tutti. E allora? Cioè, sembra che ci sia una persona, e poi lei gli dà pure manforte, che è lì per far capire a tutti quelli che telefonano, a quelli che ha votato dalla parte sbagliata o dalla parte giusta, che sono degli stupidi, che sono degli inetti, che sono degli incapaci. Stupidi non l'ho mai pensato. Vogliamo lavorare per dare anche una mano a questo noi non, paese. Guardi, quando diciamo qualcosa, quello ha detto una stupidaggine, eccetera, lo diciamo non perché uno ha votato questo o ha votato l'altro, ma sempre in base alle frasi che si leggono. Quando io leggo... Ho sentito Giovanardi... Allora, adesso so con chi parlo perché finalmente l'ho vista in faccia. Vabbè, ma è uguale, anche se uno non vede in faccia una persona, qual è il problema? Ma completamente diverso, ha migliorato molto, devo dire. Ma non è pensabile, l'opinione di Giovanardi può essere giusta o sbagliata, criticabile. Ma su che cosa, scusa? Ma non si può fargli fare la figura del cretino. È una persona, anche se non è una persona seria, è una persona. Cioè, voglio dire, chi è che voleva fargli fare una figura di... Che l'ha fatto per ma abbiamo pigliato in giro il mago Telma come se fosse un povero deficiente. Allora, voglio dire, ma abbiamo rispetto per gli altri, Dario. Lo dico soprattutto per Parenzo. Ma guardi, cosa vuol dire rispetto per gli altri? Discutiamo delle idee, delle cose che vengono dette. Io ironizzo sul fatto che la campagna elettorale... Ma io non sto a scherzare con lei, dico, ma lei non ha capito niente di quello che sto dicendo io. Ma me lo può dire tranquillamente, Ma diamo, cioè, se noi andiamo avanti su questa china, portiamo il paese. Sì, ma lei confonde. Confonde tra il ruolo che è nostro, che è quello di fare un po' di informazione, un po' di intrattenimento, un po' di presa in giro, eccetera, con il ruolo della politica, che è riformare se stessa. Cioè, sono due ruoli completamente diversi. Non c'è nessun contributo, non penso di dare nessun contributo e non lo voglio dare al miglioramento della politica. Non me ne frega assolutamente nulla. Cioè, me ne importa per il paese, ma non deve venire dal sottoscritto, da chi conduce una trasmissione. Questo è l'errore, secondo me. Ma abbiamo la borsa 800 24 0024. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore. Siamo qui nella Milano liberata, così dicono a sinistra, con secondo me una spocchia eccessiva. Normale enfasi da chi non vinceva, non conquistava. Cioè, il centro-sinistra pensa che ormai è tutto finito, è tutto fatto, il governo nazionale, eccetera, eccetera. In verità non è così, ma attenzione, normale enfasi. Attenzione. Enfasi giusta, ed era 93 che non vincevano a Milano, quindi è una enfasi giusta, normale, accettabile, è la politica, è il tifo. Dici, Ma sì, politica, in politica c'è anche il tifo, la passione, il cuore, per carità. Enzo da Bologna, buonasera. Buonasera a voi. Dica. Allora, sento... Ha vinto l'Italia dell'intelligenza, della bellezza e del progresso, che alla fine sconfigge la volgarità berlusconiana. Capito? Questo è sempre quello che viene considerato da molti una persona molto intelligente. Metra pensée. Jack Lang. Vabbè, Jack Lang. Ma è quello che pensano anche molti... però, intellettuali o pseudotali nel nostro paese, però è Jack Lang, non Cesare Battisti. Cioè, voglio dire, ma chi ha detto che è Cesare Battisti? Criminale, signor Enzo, Battisti. Cosa ci vuole dire? No, non è un criminale, non mi ha detto che è un criminale. Allora, intanto sono di Bologna io. Questo lo sapevamo, ce l'ha detto lei. Questa telefonata qui l'avrei potuta fare anche a campagna elettorale aperta per Milano. Sì. Premetto che io non ho delle grandi simpatie per la politica in genere, ma non è che sia politico, perché è giusto che una società abbia una sua struttura, delle sue regole che vengono date. Meno male, insomma. Però Pisapia, che sì, penso che sia una brava persona, sì, gli auguro, e questo lo dico al signor Parenzo che ha le battutine, perché prima con Giovanardi si è sprecato in battutine, però in maniera concreta, io a Pisapia gli auguro miglior fortuna di quella che ha avuto Cofferati, Coffero per noi bolognesi, sì, quando è stato eletto sindaco. Sì. Perché Cofferati, che molto facilmente era partito con dei buoni propositi, ma dopo un mese che era alla guida di Bologna come sindaco, e poi sappiamo benissimo che se n'è andato dicendo... ma sono due persone diverse, sono due persone diverse... per poi diventare parlamentare europeo. Va bene, sì. Mi risulta che era un po' più lontano che da Bologna. Ma sì, questo comunque lo sappiamo, Enzo, lo sappiamo. Esatto. Però Cofferati, da sindaco di Milano, si sì, trovò un bel giorno con un grosso problema. Siccome c'era da sindaco stato di Bologna, un campamento di Zingari lungo le rive del Reno, sì, e a Bologna sopra c'è una diga col bacino di Suviana. Lui, da amministratore, ha dovuto applicare delle leggi. Sì, allora? E fece sgomberare, giustamente, perché se aprono la diga si annegano. Cioè lei sta dicendo che in realtà gli sgomberi dei Rom li farà anche Pisapia alla fine? No. Non allora cadono questo. Tutte dico le preoccupazioni. Dico solo quello che è successo a Pisapia, e per quello che a Cofferati. A Cofferati, mi scusi. Cosa succede? Il giorno dopo va in riunione di sì, però Enzo, non ci racconti tutta la storia di Cofferati, abbia pazienza. Deve durare due secondi, non 50 minuti. No, ma dica. Due secondi. Va in riunione di consiglio e il... Un attimo solo, Enzo, lei è troppo lungo. Un attimo solo. Letizia Moratti. Enzo, Letizia Moratti. Le forze moderate e riformiste che condividono i valori della famiglia, i valori della legalità, i valori dell'accoglienza, i valori della sussidiarietà. Metterò in campo il capitale di fiducia che ho raccolto in questi anni per unire tutte le forze politiche. Vabbè, queste sono dichiarazioni di Prassi, però ha detto una cosa, credo all'inizio, gli opinionisti valutino la responsabilità della sconfitta, come se le responsabilità della sconfitta fossero degli opinionisti, forse si riferisce a chi? I giornali di area di centrodestra, una cosa, immagino. Perché... Forse anche sì, gli attacchi che lei ha ricevuto, le critiche che lei ha ricevuto anche da fuoco amico forse. Allora, come abbiamo detto prima, Vendola, abbracciamo fratelli Rom e musulmani, questo ha detto in piazza a Milano. Allora Enzo, a concludere però, cosa a ci vuole dire su Enzo? Su Bologna. Il giorno dopo, Consiglio dei Ministri, sì, si presentò il responsabile di riforma. Sì, Consiglio Comunale, non Consiglio dei Ministri, comunque. No, vabbè, Consiglio Comunale, è un po' diverso. Cambia un granché. Beh, insomma. E gli demolò due scopaccioni che andarono anche su tutte le televisioni. Vabbè, e gli disse, perché dopo ci fu l'intervista, sì, sul Carlino, tu quando eri sul palco che dicevi questo, non hai mantenuto la parola. Okay. Il problema di Pisapia non è tanto lui, è una parte di persone che sono di fianco a lui, sì, che non so come riuscirà a governarle. Vabbè, vedremo. Però io per Milano, sì, e per Pisapia gli auguro i migliori auguri. Bene, grazie. Cosimo, provincia di Matera, buonasera. Buonasera Cruciani, dica. Parenzo e ascoltatori. Ascolti, diciamo che la battaglia elettorale di Milano che si è svolta sulle frequentazioni, no, dei due candidati sindaci, si vede questo epilogo, no, finale. Alla fine i milanesi hanno scelto di premiare le frequentazioni meno pericolose, perché se di frequentazioni dobbiamo parlare, allora il Premier ha come frequentazioni gente condannata per mafia, amici. Ma queste sono stupidaggini, su Cosimo, non è che la gente ha votato per le frequentazioni meno... Ma no, la campagna elettorale che voleva fare la destra e che ha fatto Berlusconi era sulle frequentazioni. Vabbè, è stata sbagliata, si è capito, è stata sbagliata. Sì. Certo, vabbè, questo è evidente, dopo questo risultato è facile dirlo, no Cosimo? Cioè... No, io ho cercato di dirlo diverse volte ma non sono mai riuscito a prendere la linea. Benissimo, lo dice adesso invece, va benissimo. Non sto dicendo nulla a lei, alla trasmissione. Voglio dire, le frequentazioni del Premier vedono anche un leader che adesso probabilmente verrà condannato dalla Corte Penale dell'Aia, che è Gheddafi. cioè questi sono i moderati. Vabbè. La campagna elettorale dovevamo farla con i moderati. Adesso ho sentito la Moratti che parlava di famiglia, di valori della famiglia, solidarietà. Vabbè. Ma quale famiglia? È il premier che ha due famiglie, tutte le frequentazioni con le minorenni da accettare. Lei ci vuole dire, Cosimo, lei ci vuole dire che ha perso anche Berlusconi per quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, eccetera. Ma stiamo scherzando? Benissimo, ma abbiamo capito. Ma questi signori vogliono arrogarsi il diritto di rappresentare i valori della famiglia, della solidarietà. Va bene, d'accordo. Ma quali? Ma va bene, d'accordo, grazie. Grazie, buonasera. Grazie. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Sergio, provincia di Foggia, buonasera. Sì, buonasera, mi sentite? Sì. Perfetto, salve. Senta, io volevo dire una cosa, dottor Cruciani, che il centro-sinistra, a maggior ragione Bersani, dovrebbero riflettere loro, oltre che Berlusconi, sul risultato di queste elezioni. Perché se facciamo un po' di attenzione, vediamo che a Napoli ha vinto De Magistris, che rappresenta l'estremismo giustizialista di Di Pietro. A Milano ha vinto Pisapia, che è espressione dell'estrema sinistra, dell'area che fa riferimento a Vendola e ai centri sociali. Quindi, allora, o tornano alla vecchia accozzaglia di qualche anno fa, all'Ulivo, perché è chiaro, se si mettono insieme, vanno da Di Pietro a Vendola, Pisapia, De Magistris, Bersani, mettiamoci anche Fini a questo punto, perché tanto Fini ormai è come il prezzemolo, va dappertutto, e così forse possono fare qualcosa, però poi riusciranno a governare con questa accozzaglia. Allora, o riconoscono che il centro-sinistra è governato e monopolizzato da Di Pietro e da Vendola. Io non so se sia monopolizzato, perché il Partito Democratico a livello nazionale è certamente più forte, molto più forte, sia dell'Italia dei Valori, sia delle varie sinistre, diciamo, da Vendola fino a Ferrero. So sicuramente, l'ho già detto in più occasioni, che queste elezioni comunali, da queste elezioni comunali viene fuori una certezza, secondo me, che da una parte ci sarà una coalizione, poi non so come si articolerà, è ancora presto per dirlo, formata da Partito Democratico, Italia dei Valori, sì, ed estrema sinistra. Il vecchio Ulivo. Su questo non c'è dubbio. È lo schema del vecchio Ulivo. Nulla è di così, nuovo. È così. Per cui poi vedremo come quello che succederà, eccetera. Questa mi pare una certezza. Dove ha vinto il Partito Democratico è stato sempre insieme a questi partiti. Non credo che a livello nazionale la cosa possa cambiare. Questo è vero. Per cui questo è. A livello nazionale ci sono più problemi che a livello locale a governare. Sonia Alfano, buonasera. Buonasera. Come andiamo da Napoli? Napoli da liberata. Napoli. È già sparita la spazzatura? È già sparita la spazzatura? No, noi non siamo come Berlusconi, noi siamo molto realisti, insomma, ha fatto di quel tipo di promesse e noi no. Però, insomma, c'è molta gioia, molta felicità, soprattutto da parte dei cittadini napoletani. Vabbè, questo si è visto, naturalmente, 64%, eccetera, eccetera. Plebiscitario, Sì, vabbè, questo... Non ve l'aspettavate. Vabbè, noi no, assolutamente. Ma chi se lo aspettava? Però voi siete contenti, ovviamente. Manco contenti, adesso noi siamo qui neutri. Siamo a certificare... Siamo qui... Siamo dei notai, noi, siamo no? Dei notai dell'informazione che magari... Chi se l'aspettava, signor Alfano? Dal Parlamento europeo arriva De Magistris senza nessun appoggio, senza soldi, senza partiti dietro, pure l'Italia. Questa gente la partitocrazia. Un attimo solo, vendo la piazza del Duomo sui Rom. Viva questa meravigliosa Milano di oggi! Viva tutti voi! Però da oggi è cambiato tutto, e pensare che questa Milano dell'ipocrisia e degli affaristi, dei sepolcri imbiancati e delle loro trame, è stata battuta dalla mitezza di Giuliano Pisapia e del Popolo Migliore. Altre parole adesso. E questa è la Vendola che dice: abbracciamo i nostri fratelli rom e musulmani. Questo è bellissimo. Abbracciamo i fratelli. Tu non vuoi abbracciare un musulmano? Ma un sì, rom. Ma è la gentilezza. Non è che dall'altra parte c'è la brutalità e, e l'oppressione, la cultura, i sepolcri imbiancati, le trame. Che lei dice è sempre vero. Cruciani ha questa capacità anche di creare delle iperbole, no? Però è vero che sui rom e sui musulmani si è creata una letteratura di la paura. No, ma certo, a Zingaropoli, eccetera. Una letteratura di paura a cui Milano ha detto no. Senta, signor Alfano, Berlusconi che fa adesso, secondo lei? Ma credo che in questo momento sia in rianimazione. No, esagero. E lei gli faccio un bocca a bocca, scusi. Gli faccio la respirazione bocca a bocca. Lo rianimi. Guardi, personalmente preferirei sprofondare. Addirittura. Ma se fossi in pericolo scusi di attimo, vita. Se Berlusconi fosse in pericolo di vita, in pericolo, sul ciglio della strada, e aspetta qualcuno per una respirazione bocca a bocca immediata, non mi dire che... Ma perché devo essere ipocrita? Beh, no, perché se per caso passa lei... Lo lascerebbe ma è un dovere aiutare un cristiano, un uomo. Lo lascerebbe... Ho capito, ma mi farebbe schifo. Lo lascerebbe morire. Lo lascerebbe morire. Ma non è che lo lascerei morire io. Non sono io, non faccio l'infermiera, non conosco le nozioni di primo soccorso. Potrei anzi fargli un danno, quindi aspetterei i soccorsi. E se i soccorsi non arrivano... Scusi un attimo. Se i soccorsi non arrivano se la prenderanno con chi, insomma, non ha fatto arrivare in tempi i soccorsi, mica con me. Cioè, nemmeno fosse in pericolo di morte, non li faccio nemmeno una respirazione bocca a bocca. Io non sarei proprio capace. Una cosa pazzesca. Non è difficile fare la respirazione bocca a bocca, allora facciamo una cosa, facciamo cambio. Ci sia lei accanto per Berlusconi. No, ma mettiamo che ci sia lei. Scusi, adesso non deve metterlo di a me. È un gioco. Io sì, certo. Noi frequentiamo gli stessi posti e non c'è un solo motivo per cui noi dovremmo essere insieme. No, fate politica. Meno vicini. Fate politica per caso, vieni in Europa, che so, vieni a Bruxelles o a Strasburgo. No, ma noi guardi, quando io so che arriva certa gente, cambio proprio aria, esco dal Parlamento. Abbandono l'aula, addirittura, adesso abbandona l'aula. Perché l'aria si fa proprio pesante. Adesso siamo all'esagerazione, però. Scusi un attimo. Lei ha detto, allora, ditemi una cosa. Ma perché dobbiamo ancora continuare a parlare di Berlusconi? Beh, il capo del governo. Governa. Di quello... Ma che governo? Ma non avete visto che risposta che gli hanno dato i cittadini? Ma il capo del su governo. Napoli e su Milano, certo. Sarà sicuramente con una bombola d'ossigeno attaccata. Ma vi riuscite a resi conto di che cosa è successo oggi in questo paese? Cioè, scusi, due città hanno dato, e non solo due città, perché guardiamo anche il risultato delle altre città, hanno mandato a casa Berlusconi. Vabbè, allora, se si arriva... A Milano hanno mandato a casa la Moratti. Se si va al voto, Berlusconi scompare definitivamente. Ecco, lui scompare tutta la partitocrazia. Mi sembra un segnale ben forte. Beh, adesso tutta la partitocrazia, adesso questo non sarei così. Ma allora, guardate, facciamo un'analisi politica. Hanno vinto due persone. E non hanno vinto gli schieramenti, hanno vinto due persone come Giuliano Pisacchi. Ma questo sicuramente, E allora vuol dire che i cittadini hanno dato un segnale ben preciso. Ora, il colpo finale da infliggere a questo... regime. Possiamo dare a Berlusconi non mi pare troppo regime, andando a votare il 12 e il 13 giugno il referendum. Va bene, quello vedremo. Però scusi un attimo, non c'è un regime, se ci fosse un regime, non è che adesso questa qua è la prova lampante, secondo me, la vittoria dei magistri del Pisapia, che non c'è nessun regime, lo vogliamo dire. Sono d'accordo con Cruciani. No, questa è stata quella che c'è stata a Napoli, è stata la rivolta degli schiavi. Come la rivolta degli schiavi? Io a Napoli ci sto, la frequento, sono stata quasi anche venerdì. Come la rivolta degli schiavi, scusi? Perché i napoletani sono stati trattati non neanche come... Cioè, quelli che hanno votato... Come numeri, sono stati trattati come gente che doveva servire solo da calderone o comunque da contenitore elettorale, solo come serbatoio elettorale. Scusi, per la camorra per chi ha votato, secondo lei? Guardi, escludo che abbia totalmente che abbia votato per... Per De Magistris, fate vivo il conto, mi auguro che i camorristi non abbiano votato a prescindere, mi auguro. Cioè, se hanno votato qualcuno, hanno votato dall'altra parte, però. Di sicuro non hanno votato De Magistris. Tra l'altro, lei sa benissimo però che... Però lei sa, onorevole Alfano, mi scusi. Le liste De Magistris non avevano nessun collegamento con camorristi, no, cosa lei, invece che per altre è accaduta invece con... No, però lei sa bene che, onorevole Alfano, lei sa bene, visto che vi viene anche dalla Sicilia, che la criminalità organizzata, in genere, sceglie sempre il cavallo vincente. Questo... Ma non se l'aspettavano, attenzione, perché non se l'aspettava nessuno. Quindi avevano tutto puntato... Prime dichiarazioni di Berlusconi, ok, da Bossi si va avanti, abbiamo perso, ma io combattente, altro che rianimazione, come dice lei. Sta lottando come un leone! Lotta come un leone! Ma quale leone? Ma quello è un leone in gabbia. Ma lotta come un leone. Lotta, sta lottando. Lotta. La tua tracotanza lo seppellirà come già lo ha seppellito. Ibris. Questo continuare l'arroganza con cui insulta la gente. Ma vi ricordate quando ha detto che come chi votava a sinistra era senza cervello o addirittura degli stronzi, eccetera? Dovrete imparare a parlare di contesto, però le faccio presente che a Napoli governavano Bassolino e Iervolino, attenzione, prima, esempi, due esempi di mala politica, di mala politica. Pessima politica. Dunque voi nella giunta dei magistri non ci sarà nessun esponente che si riferisce in qualche modo a Bassolino, Iervolino, zero, cancellato tutto. Io personalmente non mi occuperò. Lei farebbe dei magistri, farebbe tabula rasa là per quello che riguarda il vecchio, come dire, il vecchio establishment napoletano. Assolutamente sì. Tenderei a rompere qualsiasi collegamento o riferimento con certi meccanismi. Genchi, assessore? Bisogna azzerare tutto. No, Genchi non è più amico dei magistri, se voglio segnalare. Allora, però la signora Alfano adesso non si occupa della giunta dei magistri, giustamente. 800 24 00 24. Abbiamo un'altra cosa da dirvi. Noi abbiamo perso il governo Avanti, questa è la prima dichiarazione di Berlusconi. Ho sentito Bossi Avanti Insieme. Le voglio chiedere una cosa, scusi un attimo, ma questa storia della rianimazione non l'ho capita bene. Cioè, veramente lei di fronte a un Berlusconi agonizzante non farebbe nulla? Un farmaco salvavita, un qualcosa? Perché mica sono una croce rossina? Lui le croce rossine è abituato a vederla ad Arcore. Certo, sappiamo benissimo che la... Caminetti e qualche altra sera travestito da croce rossina, quindi insomma, ho capito, però lasciamo perdere, sarebbe bene dove rivolgersi. Io rischierei di fargli del male, di fargli danno, non come di fargli del danno? Però, non essendo un'infermiera potrei fargli del male. Però scusi, queste lezioni sono un po' come, che ne so, possiamo avvicinarle a Piazzale Loreto, cose di questo tipo? Guardi, io già dal mese di novembre, dicembre dico che per Berlusconi si avvicina al Piazzale Loreto, è inevitabile, bisogna leggere. Ma anche però scusi, le dichiarazioni. Piazzale Loreto che Piazzale significa? Piazzale Loreto hanno impiccato il Duce. Hanno impiccato, però, una roba di violenza, eh? Vabbè, dobbiamo semplicemente posporre i nostri giorni e vedere, così come non è più necessario uccidere i magistrati con il piombo, col tritolo, perché tanto c'è l'arma della delegittimazione. E a tal proposito, io mi sento di dover ancora una volta sostenere quei magistrati di Palermo come Ingroia e Di Matteo che continuano a lottare per la verità sulle stragi. Ricordiamo che per quelle stragi 92-93 Berlusconi è indagato. Vabbè, adesso non mi tiri fuori di nuovo Berlusconi, il mandante delle stragi di mafia, che è una cosa ridicola. A proposito, Cruciani, ma visto che oggi è stato indagato nuovamente per un'altra cosa, quella è una cosa ridicola. Quella è una cosa patetica, no, ridicola. Ridicola. Che cosa ha indagato? Ricordiamolo. No, voglio informare il signor Parenzo. Voglio informare il signor Parenzo che non lo sa. Lui pensa che la TV di Stato sia come. Ma si rende conto che hanno indagato Berlusconi e Minzolini per l'intervista dell'altro giorno? Per abuso d'ufficio, ma è una cosa ridicola. Avevano perso tempo. Non mi dica che è una cosa seria quella roba là, signor Alfano. Molto prima. Non mi dica che è una cosa seria quella roba là, dell'indagine per l'intervista al TG1 ai telegiornali dell'altro giorno. Non è una cosa seria. Ma lei sa benissimo come funzionano i meccanismi del par condicio, che per, tra l'altro. No, ma lasciamo perdere. Però l'abuso d'ufficio per Berlusconi. Io capisco le multe della GCOM, perché è un organismo terzo, ma indagare Berlusconi per abuso d'ufficio su quella roba lì è un po' ridicolo. Ma vi siete dimenticati l'intercettazione di Berlusconi quando addirittura doveva scegliere varie fiction? Le sanzioni perché è stata violata la par condicio sono sacrosante e hanno accertato. Ma vi ricordate per quanto tempo ha parlato? Non so quanto all'infinito, interviste fiume. A parte che oggi le interviste si fanno senza fare domande, io invece vorrei essere un po' solidale con voi, vi sarò vicino in questo momento, però dovete farvene una ragione. Berlusconi è finito e sta finendo anche il quello vedremo. Noi ce ne facciamo una ragione, vedete, si figuri, ma non è quello il problema. Siamo disinteressati, noi non abbiamo problemi. Scusi un attimo, Berlusconi però lotta, Berlusconi maggioranza è coesa e determinata, dice, sta lottando come un leone. Con qualche signorina stasera per il Bunga Bunga, perché lui o lotta con le signorine del Bunga Bunga o lotta contro i magistrati che vorrebbero far luce e chiarezza sulle sue come lotta la signora Alfano lotta. Alfano oggi è, scusi un attimo, secondo lei tra queste possibilità Berlusconi come finisce? Le faccio queste secondo la sua previsione, finisce in galera alle Bahamas in esilio, tranquillamente a casa sua ad Arcore all'opposizione, magari da padre nobile del centrodestra, oppure finisce scegliendo il suo successore? Come finisce Berlusconi secondo lei? Io credo che anche che sia diventata una presenza imbarazzante anche per gli elettori del centrodestra, allora come finisce? Dice delle cose veramente inqualificabili. Personalmente io vorrei che lui finisse in galera, personalmente, già ce lo siamo detto un sacco di volte. Sì, per carità, lo so. Sì, adesso si scuote nell'aula, tutti feri, eccetera. Personalmente vorrei che finisse in galera. In galera. Ma l'importante è che finisca da qualche parte, non può più far male a nessuno. E cioè dove? Non può più dove? Ma guardi, anche in un ospizio, anche giusto a casa sua, basta che non come in un ospizio? In un ospizio, non è che c'ha bisogno dello ospizio. Ma c'ha la sua età, ma c'ha la sua età. Deve fare il nonno, ma ha detto, deve sono fare un com- la calza, faccia quello che sono vuole, un combattente, però ha detto. Ha detto così come diciamo noi, come sono un combattente, triplico le forze. Ma guardi che Berlusconi in questo caso tira fuori l'insospettabile. L'arma letale, è un superuomo, è un supereroe, come quello dei fumetti. Devo darvi atto che siete veramente molto, molto simpatici. Ma guardi, veramente. È vero, Berlusconi, no, però, guardi che lo sappiamo. Cruciani, rilegga per cortesia per il suo pubblico che cosa sta dichiarando Berlusconi. Rilegga. Sia scritta da Ghedini o da chi? No, rilegga. No, sono sue dichiarazioni da Bucarest. Abbiamo perso, è evidente, ma io sono un combattente. Ogni volta che perdo triplico le forze. Come lotta. Come no, lotta, signor Alfano. E non ha capito stavolta che per lui è veramente finita, sì. Che è inutile che triplica. Alfano stavolta due punti, per lui è finita. Alfano due punti, per lui è finita. Sì, esattamente. Bellissimo. Proprio così. Però diciamolo anche con questa voce: per lui è finita. Ma guardi che non andrei così per scontato questo, signora. No, ma io allora intanto il mio augurio per tutti gli italiani. Io invece penso che questo vento della democrazia che soffia da Milano a Napoli. Il vento della democrazia. Adesso si estenderà in tutta Italia, perché è arrivato il momento di credere, è arrivato il momento di avere fiducia, è arrivato il momento di capire che questa gente non ha trattato con arroganza, tre cotanze ed è stato al governo solo ed esclusivamente per curare i suoi affari. Ma l'avete letta la dichiarazione dell'altro giorno di Berlusconi quando ha detto prima faccio la riforma sulla giustizia e poi me ne vado? La riforma sulla giustizia per chi la fa? Scusi un attimo, signor Alfano. Comunque, lei mi ha detto una cosa interessante prima: fosse per lei da Napoli fuori il PD da ogni tipo di amministrazione, giusto? No, io ho detto fuori PD. Qualsiasi, non tutto il PD, perché c'è nel PD c'è gente per bene, attenzione, c'è molta gente per bene. E c'è anche qualche mela fradicia. Io personalmente taglierei Bassolino una mela fradicia con queste persone. Bassolino una mela fradicia? Guardi, Bassolino e la Iervolino credo che non si possano proprio qualificare come persone, perché hanno non si possono qualificare come persone. Politicamente hanno distrutto la politica in questa regione, in questa città. Va bene, grazie signor Alfano, un faccio abbraccio, complimenti, un abbraccio. Magistris, arrivederci. Ma i complimenti a De Magistris, ma sei una cosa pazzesca. Ma no, ma perché hanno vinto pubblicità, le persone, hanno vinto le persone. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Eccoci, eccoci qui. Tanti auguri. Questa è la Zanzara, 800 24 0024. Cari ascoltatori, da Trieste al Sud Italia vince la sinistra, perché questa è la realtà. Vince la, altro che centrosinistra. No, vince no, la sinistra. No, demagogo. Come no? Ma che demagogo? No, vince la sinistra. Allora, parliamo seriamente per 30 vince secondi. La sinistra. Hanno vinto due outsider. No, vince. A Napoli ha vinto il signor De Magistris, allora, che è un outsider rispetto al sistema dei partiti. Scusa, è Repubblica.it, Repubblica.it. Sì, ma lascia perdere. Avvocato Borghese. Avvocato Borghese. Ma che non è di sinistra, Bisapia, adesso non è nemmeno ma di sinistra. È un riformista di sinistra. Vincono i candidati di sinistra a Cagliari e Trieste. Questo è il titolo, questo tio di Repubblica. Cos'è Repubblica? Io sono stato direttore del clandestino. Non dovevo nemmeno nominarla. Cos'è? Ma ricordi Repubblica? Io sono stato direttore, anzi, mi devi chiamare direttore, Dori. Io sono direttore di un grande giornale che non ha lasciato il segno della storia del giornalismo. È anche fallito, paese. Però comunque è fallito. No, però voglio dire, scherzi, ma ha vinto Bisapia, cioè hanno vinto le persone. Ha perso la Moratti, ha vinto Bisapia. Cosa c'entra Berlusconi? Anti-Berlusconi, ha vinto Bisapia. Beh, no, non dire stupidaggini. No, io credo ha davvero, perso anche Berlusconi pure. Ha perso anche un po' Berlusconi, no, sicuramente, no. Ma i milanesi hanno votato per i Tombini, hanno votato per Milano, non hanno votato per la moschea, Ambrogio, la paura. Ambrogio da Lodi, così ti interrompo. Ambrogio da Lodi. Sì, perché allora, quando uno ragiona. Pronto? Sì, dica. Sì, chi è? Allora, buonasera, Cruciani Parenzo, piacere di sentirvi. Io volevo esprimere il mio compiacimento per la vittoria di Pisapia. Va bene, d'accordo. Comunista. Ma se non solo per esprimere il compiacimento, volevo spiegarvi perché. Perché credo che a Milano in questo momento la figura di un comunista verace come Pisapia, ma mi sarebbe andato bene anche un fascistone verace, una persona posizionata ideologicamente agli estremi, un duro e puro. È la persona che ci vuole, pensando agli impegni che caratterizzeranno Milano nei prossimi anni. In particolare penso all'Expo, penso ai 15 miliardi di euro che devono piovere su Milano, penso alla vicenda del consiglio di amministrazione della società che deve gestire l'Expo e a quello che ha lasciato trapelare. Lasciatemi usare un'espressione un po' così, ma molto comune, magna magna visibile che c'era sotto. Quindi ci vuole una persona che se trova qualcuno con le mani da marmellata, le mani gliele taglia. E allora? Questa è la mia visione delle cose. Cioè, secondo lei quelli sono ladri e quelli sono onesti? Un personaggio come Pisapia, ma anche mi sarebbe andato bene uno di estrema destra. Cioè, scusi un attimo, Ambrogio, secondo lei, dunque, quelli che hanno vinto sono gli onesti, dall'altra parte ci sono i ladri? Assolutamente no, non ho questa visione generale. Scusi, lei ha detto, dall'altra parte c'è il magna magna. È quello che dice lei, abbia pazienza. Questa visione specifica su Milano per una cosa no, su che Milano, ho detto su Milano, sì, da una parte c'è, lei ha detto il magna magna. Io non so se sia il magna magna, che cosa intende lei, se ci sono, se intende detto, dei reati, detto, se intende, l'ho detto, se fosse successo, se l'Expo fosse stato assegnato a una città cinese, per esempio, non andiamo, ah, perché in Cina adesso non c'è la perché in Cina non c'è la corruzione. No, non è quello, è che adesso sarebbero lì a posizionare le ultime pianticine, perché la per terra, guardare gli arredi finali con sì, i colori. Sì, ma quello per carità, ma quello le do prima. Ragione, certo, Ambrogio, al 100% le do ragione sulla vergogna di anni persi, perché naturalmente non c'è stato accordo per spartirsi la torta, vero, nel senso, ma non spartirsi la torta in senso negativo, per i poteri... Come si può poteri... non pensarlo, Cruciani? Ma no, ma lasciamo perdere, quello poi è un altro discorso. Sto dicendo che i potentati del PDL a Roma, in Lombardia, eccetera, si sono scannati per anni per gli assetti della società, per l'Expo, per i terreni, eccetera, eccetera. E dunque l'Expo non è stato percepito dai milanesi come qualcosa di positivo, perché naturalmente non si è visto nulla, zero. Esattamente. Io penso che una figura ideologicamente posizionata come Pisapia o come un altro estremo sono persone, direi, culturalmente meglio posizionate per fare attività di controllo. Non lo so, quello non lo so. Ambrogio, comunque, qui ognuno può dire quello che vuole. La ringrazio. Marco da Parma, buonasera. Marco, non la sentiamo. Francesco da Bologna. Eccomi qua, buonasera. Dica. Senta, volevo fare, premesso che sono un importante contribuente, no? E ascoltare l'onorevole di prima che parlava con quei termini nei confronti di, diciamo, del nostro primo ministro non è che mi abbia così tanto fatto piacere. Beh, scusi, però il legame mi piace moltissimo pagare tantissimi oneri ogni anno, sì, per poi mandare in Parlamento, non so se questo Parlamento è un Parlamento europeo, sì. Ecco, ma un minimo di rossore dovrei però, scusi, averlo. Francesco, io, il legame dovrei tra... averlo ancora io che ogni anno sono una persona onesta che va a pagare le tasse e poi mi vedo rappresentato da una persona che offende un proprio collega, a prescindere che faccia il Presidente del Consiglio o faccia l'onorevole, cioè, e che lo offende in un modo così pubblico, dettata da un'euforia, poi, non lo so, giustificata, perché per carità... Francesco, scusi un attimo, la posso interrompere? Ognuno può giudicare le parole della signora Alfano come vuole, naturalmente, figuriamoci, però il legame e la connessione che lei ha fatto tra il fatto di essere un contribuente molto... Il suo metodo che in questi ultimi 3-4 anni, il suo metodo di condurre la trasmissione è un po' cambiato e io... No, ma scusi, che c'entra? Io sto parlando di un'altra cosa. Condivido pienamente. Io cosa c'entra il fatto che lei è un contribuente, come lei ci ha detto? Glielo dico io. Non è che ha più diritti, degli altri. Al contrario. Il suo voto vale quanto il mio. È che io continuo a vivere in Italia, a lavorare onestamente in Italia. Ma questo non lo mettiamo in dubbio. Sono orgoglioso del mio paese. Certo. Poi quando ascolto dei deputati che percepiscono questi stipendi che percepiscono e si mettono a criticare, non costruttivamente, perché io capisco se la signora... Sì, posso criticare l'operato di un suo diciamo di un suo concorrente, chiamiamolo così, un suo avversario politico, però non è che può permettersi di venire lì alla radio e dire tutte le parole che ha detto. Poi lei giustamente, ironicamente, continuava a dire sì, ma gli faresti la respirazione bocca a bocca. Questa signora negli ultimi 20 anni, io ci scommetto e la sfido, sarebbe andata di corsa se l'avesse chiamato quel signore lì ad Arcore a fargli la respirazione bocca a bocca. Questo non credo, questo è i miei dubbi. Scritto. Anche il mio numero di telefono, e vedrà che questa signora qua ci correrebbe di... poi che lei questo faccia, lo metto in dubbio, tanto la cura ma io non lo so, poi dobbiamo ascoltare, vabbè, comunque guardi, comunque che c'entra il suo reddito, che c'entra il suo reddito, non capisco il suo reddito, cioè il suo reddito cosa c'entra. La mia telefonata è questo, Francesco, cosa c'entra il suo reddito, il fatto che lei è un contribuente importante? Scusi, non ho capito. Cosa c'entra il fatto che lei è un contribuente importante? C'entra perché io tutti gli anni, le ripeto, sono, e lo ripeto, sono un buon contribuente. E vabbè, vedere, non c'entra niente. Vedere sciupare tutti i miei, vedere tutti i miei soldi che vanno sciupati. Perché una signora come quella di ma prima, non è lì che vengono buttati i soldi, non Francesco. Vengono non è anche lì. Buttati. Però il motivo della mia telefonata non è questo. Il motivo della mia telefonata è questo. È un commento che vorrei fare. E poi io la richiamerò fra 2 o 3 anni per vedere questa scommessa che io voglio. Speriamo di essere vivi. Queste due amministrazioni che sono state democraticamente, e io che sono un elettore di centrodestra, elette, accetto, io accetto volentieri. Il giorno dopo non vado in piazza a dire che devono dimettersi. Vabbè, allora... a sinistra ogni volta. Bene, io metto qualsiasi scommessa con voi, con lei e con il dottor Parenzo, io metto qualsiasi scommessa che queste due amministrazioni, perché amministrate già in passato a Napoli, abbiamo visto come è amministrato la sinistra, l'immondizia arrivava al primo piano, non vedo come possa cambiare adesso che verrà amministrata un'altra volta dalla sinistra. Io non la vedo questa grande... Ma vedremo questo, ma queste sono tutte previsioni, queste sono tutte, previsioni, per carità, poi una cosa è la campagna elettorale e una cosa è l'amministrazione. La ringrazio, Napoli, i titoli della 7 e poi la pubblicità. Francesco, 800 24 00 24, restate qui, la Zanzara, ancora mille sorprese! Caro Parenzo, ospiti, cose... Giuliano Pisapia è il nuovo sindaco di Milano col 55% dei voti, basta liti, dice subito, poi prende il telefono e parla col presidente dei napoletani. In serata Moratti telefona e gli augura buon lavoro. Il centro-sinistra si riconferma a Napoli con la clamorosa affermazione di Luigi De Magistris, che raccoglie il 65% dei consensi. Abbiamo scassato, dice il neosindaco, e poi aggiunge: Napoli è stata liberata. A Bucarest, dove si trova per impegni il governo, Berlusconi rompe il silenzio e dice: nervi saldi, avanti, Bossi è d'accordo. Maroni parla di sberle e aggiunge: serve subito un rilancio, riforma fiscale federale. A Piazza Duomo, aspettando Pisapia, Nicky Vendola afferra il microfono, infiamma gli animi: è stata espugnata la capitale del nord e conquistata quella del sud, e un ciclo si è compiuto. L'opposizione invoca subito la resa dei conti, il governo si dimetta, chiede Bersani, ma sono certo che non lo farà. E Fini avverte che se ne vada ora oppure no, il berlusconismo comunque è finito. E i ballottaggi disegnano il quadro della nuova Italia amministrativa. Da Trieste a Cagliari molte le novità inaspettate, tra queste anche la città di Novara, dove il centro-sinistra passa col 52% dei voti. Non ci sono solo le elezioni, due kamikaze in azione a Herat, presso la base dei nostri soldati in Afghanistan. Dopo una girandola di notizie anche gravissime, il ministro precisa: ci sono 5 soldati feriti, nessuno in pericolo di vita. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore, io son pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amici. Tanti auguri comunque a chi ha vinto, caro Parenzo, non c'è dubbio. Bisogna amministrare poi bene le città. Certo. Bisogna amministrare bene le città. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Non c'è dubbio su questo, mi sembra. E andiamo a sentire. Sì, andiamo a sentire chi? Il lottatore per antonomasia. Berlusconi. Questa volta non abbiamo vinto, ma andiamo avanti. Se volete sapere il mio morale, io sono un combattente. Ogni volta che perdo, triplico le forze. Ho sentito Bossi al telefono, siamo d'accordissimo ad andare avanti insieme e di governare nella direzione di queste riforme che ci mancano. Audio prontamente fornitomi dal signor Dario Ricci, qui della redazione di Radio 24, che ringraziamo naturalmente. Molto, molto bene, grazie al signor Ricci. E dove andiamo? Marco, provincia di Como, buonasera. Oh, buonasera, incredibile. Sono in linea con il grandissimo Cruciani e il signor Parenzo. Bene, adesso cosa di brutto ci deve dire? Aia. Perché... No. Aia. Ragazzi. Io, avete fatto bene a richiamarmi, perché questa sera mi eleggerete a supremo istigatore della sera. Non so, insomma, si calmi, amico mio. Non abbiamo ancora sentito niente. Non abbiamo ancora sentito niente. Già lei pensa di essere al centro della serata. Non si esalti. Ho detto già al mio amico di collegarsi, perché non la chiameranno mai, ma invece mi ha chiamato. Quindi perché qui non abbiamo pregiudizi. Chi è che pensa che qui ci sia una regia occulta a chiamare quello che vede i numeri di cellulari? Dice: no, quello no, perché non funziona così. Registra Damiano, cazzo registra, vabbè niente. Ma chi è? Chi è Damiano? Chi è sta gente? Ma non è Radio Sgubo, non è casa questa. Sua, è la Radio del Sole 24 ore, si vergogni! Ha ragione, signor Parenzo. Allora, scusi, dica, ma sono, Marco. Prego. Sono eccitatissimo perché sto parlando con voi. Ho capito, si calmi, però non si ecciti troppo, sennò altrimenti sbrodola, mi sbrodola troppo. Si calmi, amico mio. Ok. Allora, niente, il mio intervento no, sbrodola è in senso figurato, naturalmente. Preparate tutti le ambulanze, tutte ma ancora, cose. Ma ancora, quando uno annuncia sfracelli, poi si trovano le cose, spesso si ammoscia tutto. Allora, grandissimo Cruciani, questo è il mio anatema. Anatema, benissimo. Sì. Allora, sono tutti contro Berlusconi, di qua di là, l'abbiamo distrutto, abbiamo vinto, Berlusconi a casa, eccetera, eccetera. Il Berlusconi è il male del mondo, Dio mio. Allora io dirò, io vi dico, finito Berlusconi, l'Italia andrà in rovina. Non ho capito, questa dove, questa è il suo anatema, questa dove essere l'anatema, questa è sta roba, questa roba finito Berlusconi, l'Italia andrà in rovina. No, questo è il mio pensiero, adesso lasciamo perdere, l'Italia in rovina, ma qui non c'è manco bisogno. Io mi aspettavo un'analisi, no, un po'. È un'analisi. Io ho impressione però, scusi signor Marco, che non so perché, almeno spero che dopo Berlusconi l'Italia sopravviverà. Io credo che sopravviverà, credo che sopravviverà. Ma non andrà abituati nemmeno in rovina, questo non andrà nemmeno in rovina. Però questa, posso anche sbagliare. È una cosa mia ironica e spiritosa, perché mi piace così. Vi do sale per la serata. Ma non ci dà nessun sale per la serata, ce le posso assicurare. No. Però io voglio dire, adesso va bene tutto. Berlusconi è il male del mondo. A sentire tutti. Ma guardi che con me sfonda una porta aperta, abbia pazienza. Allora, scusi, Jack Lang, abbiamo sentito oggi, ma adesso lasciamo perdere Jack Lang, che per i nostri amici questo, che ci ascoltano, magari non sarà molto popolare. È un signore che è stato anche, ha avuto anche dei ruoli qua a Milano, profondo conosciuto dell'Italia, che stasera ha detto una stupidaggine pazzesca. Da una parte c'è la volgarità, dall'altra parte la bellezza, la creatività, l'Italia che amiamo, tutte stupidaggini di questo tipo. Certo. Luca Sofri, che il nostro amico Luca Sofri, che si trova in piazza del Duomo a festeggiare. Bene. Pisapia ci dice: momento creativo migliore, la banda che suona Enola Gay a Palazzo Marino, che fra poco naturalmente metteremo subito qui alla Zanzara. Traffico. La Mecca dei gay, Palazzo Marino. Ciao Letizia, ciao. No, ma tu sei un tifoso di Pisapia. No, c'è una cosa pazzesca. Io sono stato un tifoso di Albertini, ma credo che Pisapia sarà un bravo sindaco, almeno me lo auguro, spero, perché non è un estremista. Volpe Pasini, aiutami tu. Non è un estremista. Chiamatemi Volpe Pasini. Non è un estremista Pisapia. Chiamatemi Volpe Pasini. Ma scusami. Voglio Volpe Pasini. Ma perché la borghesia moderata e riflessiva? Storico collaboratore di Vittorio Sgarbi. Adesso parla Volpe Pasini, è una cosa clamorosa, ma va benissimo, è simpatico Volpe. Ma perché, dai, tu conosci questa città, ci vivi ormai da anni, perché pensi che i milanesi abbiano affidato la città a un estremista, come qualcuno dice? Non è un estremista. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto che è un estremista? Io non ho mai sostenuto che è un estremista. Tu mai, ma gli amici del centrodestra hanno sbagliato la campagna elettorale proprio perché hanno, primo, candidato la Moratti, primo errore clamoroso, secondo errore perché hanno fatto una campagna costruendo su Pisapia l'immagine di un estremista. Intanto torna Prodi. Ora gioiamo e poi mettiamoci subito al lavoro per il cambiamento. No. Romano Prodi. Torna Prodi. Torna Prodi. Non so se sia la bella notizia. Comunque. Marco, ancora in linea lei? Ah, sì, cosa vuole dire? Allora, lei ci ha promesso che ci risveglia la serata, non so con quale bomba o con quale filippica. Non ha fatto nulla. Ride. Non ha detto nulla. Vabbè, ride. Ma certo, ma io poi non è che abbia molti rudimenti di politica, quindi no, ho capito, ma non bisogna avere rudimenti di politica. Ci ha promesso, intanto ti dico subito che abbiamo fra pochissimo anche un collegamento speciale. Con chi? Fra poco collegamento speciale, fra 10 minuti sarà con noi dal Ministero dell'Economia in diretta. No. Sì, alle 20:30, dunque restate sulla Zanzara, sono le 20:30, fra 10 minuti ci ha promesso Tremonti che ci dirà qualcosa sull'esito delle elezioni. Continua a dire dai. Vedo una cosa, Cruciani, per cos'è che hanno usato Enola Gay, scusi, che è la canzone tra l'altro fantastica che io Enola adoro. Gay, secondo Luca Sofri, è la banda che suona Enola Gay a Palazzo Marino, c'è una banda che davanti a Palazzo Marino per festeggiare Pisapia che canta Enola Gay. Vabbè, meglio quello delle canzoni di Apicella, voglio dire. No, vabbè, è questione di gusti. Che ma no, secondo me è più bella, più orecchiabile questa che non le melodie di Apicella. Dopodiché va benissimo. Vabbè, indubbiamente, comunque. L'hanno usata anche per il tifo delle tifoserie, no? Bah. Marco, voto a Marco, che aveva detto, aveva promesso a Sfracelli, voto a Marco. Quanto dai? Il prezzo? 4 perché è simpatico. 4, la bomba 4. Non c'è stata. La bomba. Ha ragione. Grazie, Marco. Grazie. 800 24 24. Francesco Speroni, eurodeputato della Lega Nord. Buonasera. Buonasera a lei. Come sta, caro Speroni? Ma io sto benissimo. Come benissimo? Se ne fotte una lei. Bella botta, una bella botta, no? Vabbè, ma la botta vuol dire che la mia salute non è che è intaccata dalla botta. Ci mancherebbe. No, infatti era un come stai politico. Non, chiesto, non cominciamo a fare. Non è che io mi abbatto, mi abbacchio perché in qualche comune abbiamo perso. Perché... Beh, qualche. Milano, diciamo. No, a parte Milano, ma anche... fatta di altro. Però, anche a... dove avete perso? A Rho hanno perso. A Rho, sì. La città dove faranno l'Expo. Abbiamo perso per un pelo. Quella è una sconfitta che dispiace. Dispiace molto. Varese, dispiace più Rho di Milano. Avete resistito a Varese, bisogna dire. Sarebbe stato clamoroso, no? Perdere Varese. Bello. D'altro canto sono di Busto Arsizio, li abbiamo vinto addirittura al primo turno, quindi. Senta un attimo Speroni, ma insomma Berlusconi per voi in questo momento, per voi della Lega, è un peso oppure una risorsa? No, non è assolutamente un peso, è una risorsa che ha perso un po' di smalto, questo sì. E dunque deve preparare la sua successione? Ma se non dico che debba preparare la successione, ma deve naturalmente cambiare qualcosa. Tipo cosa? Tipo cosa? Ad esempio fare quelle riforme che sono sempre state annunciate e ancora non sono state fatte. Tipo? Tipo la riforma della giustizia, ma soprattutto la riforma federale vera. Cioè beh, un po' è stata quella avviata. Della Costituzione, no, quella della Costituzione. Il federalismo si fa cambiando la Costituzione, non facendo una legge sulla fiscalità dei comuni. Quello è un tassello, ma il punto principale è cambiare la legge. Ha promesso ad esempio altre cose, ma non ci sono i numeri per carriere farlo, o le funzioni dei pubblici ministeri e dei giudici. Ha parlato tanto contro la magistratura, ma di fatto la legge è sempre rimasta quella. Quindi forse la gente un po' gli ha voltato le spalle, non tutte insomma, abbiamo visto, non c'è un 80 contro un 20%, siamo molto spesso testa a testa. Beh, certo, 80, però appunto qualcuno che l'altra volta aveva votato soprattutto PDL, perché la Lega bene o male ha mantenuto, ha guadagnato posizioni, e soprattutto il PDL, perché ripeto, promette ancora oggi tante cose non le ha fatte. Beh, non è che al governo ci siete pure voi, Io sto dicendo, lei mi ha parlato di Berlusconi. No, di Berlusconi, ha certo. Ha detto Berlusconi è un peso o una risorsa, e cosa c'entra la Lega, scusi? No, io rispondo alla sua domanda. No, se certo, un'altra certo. Domanda, do un'altra risposta. No, sto dicendo che se qualcosa non è stato fatto a livello governativo, come lei dice, per esempio sulla riforma della giustizia, non è solo per responsabilità di Berlusconi. Ma il ministro della giustizia si chiama Alfano ed è del PDL, non è della Lega. Sì, di solito le riforme le propongono i ministri. Può sì, ma nella maggioranza c'è la Lega. Scusi, però le riforme le propongono i ministri. Scusi un attimo, la cosa che vorrei capire è, dopo questa sconfitta, non deve Berlusconi scegliere, magari non sarà nell'immediato, ma non deve avviare un confronto per vedere chi può essere il suo successore? Cioè non è iniziato il dopo Berlusconi, questo voglio dire. Ma questo non lo so, diciamo, non è la prima volta che c'è stata una sconfitta, se guardiamo anche dall'altra parte... Anche dall'altra parte vediamo che a un certo punto anche Prodi è stato sconfitto e addirittura dopo 5 anni si è ripresentato e ha vinto, quindi non è che perché uno perde delle elezioni comunali casca il governo, rinuncia alla politica, nomina il successore, queste cose qui, insomma, non siamo mica vaterlo, ecco. Sono delle battaglie importanti, ma diciamo non è che è perso una guerra. Però quanto tempo gli date? L'umore all'interno della Lega, anche vuol dire, misurando gli ascoltatori di Radio Padania, credo che sia il rigetto nei confronti di Berlusconi, esiste questa cosa qui o no? Ma esiste proprio per quello, perché tante promesse, non sempre le promesse sono seguite i fatti. Quindi quanto tempo gli date? Lanci un ultimatum al Berlusconi. I tempi sono la legislatura, perché a un certo punto. Però dei segnali dovrà darli, no? La riforma costituzionale non è che la si fa in 3 giorni. Ho capito, però Speroni, lei sa bene, la riforma costituzionale, tema noiosissimo, non ci sono i numeri per fare cosa va con Scilipotti la riforma costituzionale. Su, dai, Speroni, lo sa. Allora, anche lei. Se Scilipotti vota a favore, la si fa. Ricordo che l'unica. Ma a maggioranza la si fa. Ma poi... ci va a maggioranza, poi c'è il referendum, cioè è complicato. Allora, i referendum si possono vincere, si possono perdere. Io ricordo che l'unica riforma che è stata fatta, quella del 2001, da centrosinistra, ha avuto 4 voti di margine. Sì, ho capito, infatti. Noi ce ne abbiamo forse qualcuno di più, ecco, quindi a un certo punto, che sia Siripoti che sia qualcun altro, i voti non hanno nome. Per cui qualche conto è arrivato. Senta, Vendola in piazza a Milano pochi minuti fa ha detto un abbraccio ai fratelli rom e musulmani, che diventa contenti loro, contenti milanesi, se li troveranno fra le balle. A Busto non vengono, questo è sicuro. Come a Busto? Come non vengono? Scusi, a Busto non ci sono accampamenti di nomadi, cioè rom e musulmani a Busto in società. I musulmani ci sono, i rom come accampamenti abusivi non ci comune sono. Deromizzato è Busto Arsizio. Ma non è deromizzato, intanto io parlo di nomadi e non di rom, io guardo quello che fanno, non l'etnia a cui appartengono, anche perché sennò il primo giudice mi mette dentro, comunque mi inquisisce per razzismo. Io dico noi campi abusivi a Busto Arsizio non ce ne abbiamo, lei dice, a Milano probabilmente aumenterà. A Milano c'erano prima. Con Pisapia, cioè, a parte che c'erano anche prima, comunque con Pisapia, appunto. Con Pisapia secondo lei aumenteranno i campi? Di sicuro aumentano, campi... l'ha anche detto nel suo programma. No, adesso, non ha detto che aumenta i campi rom. No. Beh, si sa da che parte sta, insomma, basta andare a vedere dove ci sono loro, ci sono anche quegli altri. Cioè dove ci sono, dice, dove c'è il centro-sinistra ci sono i rom, dici? Certo. Ma allora i milanesi perché non hanno avuto paura? Mi spieghi? Perché detto a loro, io non voto a Milano. Ho capito, però lei è un dirigente nazionale della Lega. Sono senza cervello? Un dirigente nazionale che si occupa di Europa e di Busto. E di Busto Arsizio. Poi i milanesi, per fortuna, proprio perché è leghista, ognuno vota come gli pare piace, cioè, non sono io come devo votare. Non mi faccio venire un Vendola a dirmi come devo votare. No, ho capito, ma un'analisi del voto su Milano se la sarà fatta, no? Cioè, i milanesi non hanno... Non è piaciuto quello che ha fatto la Moratti in 5 anni. Benissimo. Comunque meno male che sono a Busto e non sono a Milano, dice lei, no? Questo di sicuro. Cioè Pisapia, cosa diventa Milano con Pisapia? Questo vorrei capire. Secondo lei, una città dove ci saranno più campi rom, la droga, droga non c'entra niente, non è che Pisapia. Qualcuno della maggioranza l'ha detto. Qualcuno... Di sicuro magari ci sarà qualche chiusura di tutte e due gli occhi sui centri sociali. Vabbè, i centri sociali non è che siano necessariamente. Per me sono una cosa negativa, per Pisapia, cioè, no, e per i milanesi. Cioè, cosa pare, sono? No. Un coacervo di terroristi, secondo lei, o di potenziali terroristi? Che comunque non rispetta la legalità. Senta, le voglio chiedere una cosa su una frase che ha detto Borghezio la settimana scorsa, suo collega al Parlamento Europeo, proprio qui alla Zanzara, su Mladic. Sì. Lo ha definito un patriota. Anche per lei è un patriota? Patriota magari lo era anche Hitler, dipende come uno fa. Beh, il patriota. Insomma, adesso un patriota. Patriota non è un termine positivo, è un termine neutro, è uno che agisce in favore della sua patria. Il patriota può essere nazionalista, il patriota può essere... Ma lo dica che è un criminale, dica esplicitamente che è un criminale di guerra. Questo non spetta a me, andrà sotto processo, sono abituato, quando uno va sotto processo, a aspettare le sentenze. Sì, ho capito, però nei confronti di Mladic ci sono prove da tantissimi signor anni. Mladic. Sono accuse, le prove le stabilisce il tribunale, se le prove sono valide o meno. Faccio l'avvocato, per cui queste cose le so. Cioè, allora, siamo garantisti con tutti, tranne con qualcuno. Sì, no, è che per con Mladic la mia garantismo è che è un criminale. Oh. Sì. Per lei è un criminale. È un delinquente, però aspetto... Prima di dirlo, che ci sia un tribunale, ma lei ci crede? Tribunale dell'AIA. Lei ci crede nel tribunale dell'AIA? Ma ci credo, è un tribunale formato da persone ritengo competenti, magari c'ha qualche connotazione politica, come era anche la corte di Norimberga, però la corte di Norimberga ha avuto la sua utilità, qualche nazista l'ha mandato a morte, io sono contro la pena di morte, ma allora si usava, la corte ovviamente dell'AIA non usa la condanna a morte, una condanna secondo me ci deve essere, però ovviamente aspettiamo lì. No, perché il signor Borghezio l'altra settimana ha detto che invece ha la credibilità dell'AIA è meno di zero, poco più dello zero secondo lui, lei la pensa diversamente? Io la penso diversamente, ecco, anche se ripeto è un tribunale un po' anomalo rispetto che sia alla Corte d'Appello di Milano, ecco, tanto per dirne una. Allora, abbiamo la pubblicità, torniamo tra un attimo, resti con noi se può. Risuona anche questa canzone davanti a Palazzo Marino, 800240024, è il giorno dei verdetti. Caro Parenzo, come sono stati questi verdetti? Verdetti che hanno visto la vittoria di due personalità, non di due partiti, De Magistris e Pisapia hanno vinto le persone contro dei candidati sbagliati. Questo è quello che penso io. Poi c'era anche un po' di anti-berlusconismo. Signor Speroni, in collegamento da Milano, credo, da casa sua, no, da o da Bruxelles, benissimo. Da Bruxelles. Bravo, bravo, Speroni, che è lì a lottare a Bruxelles. I candidati erano sbagliati? Ma sbagliati. L'ha detto anche Berlusconi, poi ha smentito in realtà. Allora, per quanto riguarda la, diciamo, un candidato che perde potrebbe essere definito sbagliato col senno di poi, però non c'è la controprova. Uno dice, ma se c'era un altro cosa succedeva, no? Quindi non è tanto possibile dire. Cioè voi a Milano, Stamoratti, ci avevate qualche sondaggio sotto mano, anche Berlusconi ce li aveva, non è stato un azzardo ricandidarlo o era obbligatorio? Ma obbligatorio non lo è mai, di solito però un sindaco uscente, se non ha fatto delle cose particolari, turpi, viene ricandidato, insomma, e non aveva fatto delle cose turpi Lamoranti, no. È un po' una prassi, ecco. Quindi ma si può dire che un candidato della Lega avrebbe vinto in carrozza? Sicuramente non ha fatto quello che i milanesi avrebbero voluto, se no l'avrebbero rivoltato. Ma si può dire che un candidato della Lega avrebbe avuto più sorte? Avrebbe avuto più o no? Ma devo dire che abbiamo provato a mettere dei candidati nostri e anche lì non è che sempre siamo riusciti a vincere, quindi non, è, non detto. È possibile fare un'affermazione di questo tipo. Cioè, quando siete andati da soli, dice lei, no? Siete andati da soli. Ad esempio, a Gallarate siamo andati da soli, non siamo arrivati neanche a ballottaggio. A Novara avevamo un candidato nostro in alleanza, sì. E abbiamo perso a ballottaggio. Quindi, non è che un candidato della Lega per forza assicuri la vittoria. Vince, ecco. Quindi, non state pagando anche un po'. Sono un po' campate per aria. Speroni, scusi un attimo, voglio capire questa cosa qua. Giustamente stava chiedendo Parenzo, credo, ma sì. Pagano un prezzo, secondo voi me. Voi pagate un prezzo oppure in realtà l'alleanza con Berlusconi ormai è qualcosa di irreversibile? No, di irreversibile non c'è niente nella vita, no? Se non la morte, va bene, questo è d'accordo. Se non la morte, d'accordo. Io ho detto nella vita, quando uno è morto è morto. Sì. Puntualizza sempre. Però. Per quanto riguarda il discorso, l'alleanza ovviamente va magari rivista, va riverificata, perché appunto una sconfitta così dappertutto può essere giustificata appunto da fattori locali, può essere appunto che a Moratti non sia piaciuta, però tanti altri casi in cui anche il sindaco uscente non è piaciuto o quello entrante, venendo da una giunta di centrodestra, il candidato di centrodestra ha perso, denota che forse non sono solo fattori locali che appunto vanno rivisti. Ripeto, per me il governo doveva forse essere un pochino più o molto più incisivo su certi temi. Vabbè, comunque, io la cosa che non capisco è che questa cosa è venuta fuori poi dall'indiscrezione dei giornali. Cioè, mi aspetto che lei, che è uno che capisce l'anima della Lega, conosce i dirigenti, eccetera, mi stupisce che non dica esplicitamente che Berlusconi, non dico che deve passare la mano, so benissimo che non si può dire, forse è anche sbagliato dirlo, perché poi Berlusconi spesso ha saputo risollevare delle situazioni, che sembravano tutto. Ma che per esempio vi aspettate che si avvii una procedura, non so quale, per scegliere il suo successore, un Tremonti, un Maroni, un uomo della Lega, cioè nell'alleanza ci sta a un certo punto che uno, no, avvii una situazione. Allora, diciamo questo. Io Bossi penso l'aveva detto, del resto, no? Bossi aveva detto, se a Milano si perde, perde Berlusconi. L'aveva detto, o sbaglio? Sì, perde ovviamente le elezioni amministrative. Non mi risulta che da nessuna parte del mondo un capo di governo si dimetta perché ha perso le amministrative. Come no? D'Alema si divise. Un attimo, le amministrative vuole dire comunali e provinciali, le regionali hanno una valenza più politica. Ci sono più elettori, eccetera. Ci sono più elettori, molto spesso non si conosce neanche chi è il candidato presidente, eccetera. La Moratti, immagino che la maggior parte di chi ha votato sapesse chi era, come sapesse chi era Pisapia, forse non è entrato nei dettagli del programma. Ma è prevedibile, i candidati, soprattutto a ballottaggio, sono due e la gente li conosce, ecco. Oppure chi non li conosce non è andato a votare. Abbiamo visto anche l'assenteismo al secondo turno, è normalmente più alto, però ripeto, Zapatero ha perso le elezioni amministrative in Spagna, non si è dimesso, certo aveva già detto prima che finito il mandato se ne andava via, ma lo stesso è stato per ci può essere una mini crisi di governo, secondo lei? Cioè la Lega può ritirare qualche ministro, bisogna dare un segnale oppure no? Ma non vedo perché dovremmo ritirare noi ministri, visto che si è andato male il PDL. Vabbè, anche voi non è che siete andati benissimo, rispetto noi a 50... siamo andati benissimo, ripeto, adesso non ci consoliamo con le disgrazie altrui, però se andiamo a vedere i risultati, noi quasi dovunque siamo andati meglio dell'altra volta. Sì, dell'altra volta rispetto a 5 anni fa, non rispetto all'anno scorso, però è diversa la cosa. Rispetto a 5 anni fa, sì, perché comunque la Lega sì, è cresciuta. Adesso se siamo a fare i confronti con le elezioni europee, con qui, con là, devo dire che si è interrotta un po' una tendenza. Appunto, cioè, dico, quella della... mentre in tutta l'Europa, addirittura in tutto il mondo, pensiamo anche alla sconfitta del partito di Obama alle ultime elezioni, tranne mi pare ecco il Canada, il premier è stato riconfermato. Vabbè, perdono sempre i governi, sì. Vediamo che in Europa tutti i governi hanno dei problemi. La Merkel ha perso addirittura il Baden-Württemberg dopo più di 50 però anni. Però mi scusi, Speroni, qui c'è un collegamento particolare perché altrimenti lo perdiamo. Chi Ministero c'è? Dell'economia. Ah, beh. Giulio Tremonti, buonasera. Oh, ministro. Ministro? Buonasera. Buonasera, buonasera Tremonti. Senta, siccome lei finora non ha rilasciato dichiarazioni e ci regala questo che può essere definito uno scoop, no? Un'intervista esclusiva. Un'intervista esclusiva alla Zanzara. Voglio capire da lei, velocemente, poi sappiamo che è molto impegnato, quali sono le ricadute sul governo di queste elezioni? Guardi, Crociani, ha vinto la sinistra radicale globalizzante, quella stessa sinistra che ha portato al baratro il paese. Beh, sicuramente bisognerà rimboccarsi le maniche perché la sconfitta c'è. Ci confronteremo, ne parleremo. Dunque lei c'è subito... Mi lasci finire. Sì, scusi. Lo ha detto lo stesso Berlusconi, che è un combattente, si va avanti ed io, facendo parte del governo Berlusconi, vado avanti. Dunque, lei ci... però c'è una missione, no, Parenzo, mi sembra. No? La sconfitta c'è, abbiamo perso, beh, giusto? Beh, ministro Tremonti, due punti, abbiamo perso. Beh, certi dati mi sembra siano abbastanza chiari, ma bisogna anche dire che io devo pensare ai conti pubblici. Sì. Il lavoro di questi anni non è stato finora solo esercizio contabile, è stato coesione sociale, risparmio delle famiglie ed è stato tenuto aperto il canale di finanziamento alle imprese. Ho capito. Vabbè. Questo continuerà ad essere il mio lavoro anche. Però dire che professor, che Giuliano Pisapia, scusi ministro se mi permetto, con pacatezza glielo dico, dire che Pisapia è l'uomo della sinistra globalizzante, ma come si mi fa? Sembra un po' esagerato adesso, francamente, signor dai, ministro. Guardi, ministro, Parenzo, guardi, ho detto una frase nei giorni precedenti il ballottaggio, gliela ripeto, visto che la vostra vuole essere, anche se non sempre ci riesce brillantemente, una trasmissione spiritosa, scusa, ironica, sì. Io dissi: con Pisapia l'Expo va via. Vabbè, una battuta infelice, diciamo. Capito, l'Expo va via, che non va via da nessuna parte. È stato ministro, lei il primo a mettere, lei non lo voleva l'Expo. Le lei non lo voleva. Le voci, non sento niente. Ha ragione. Così facciamo tardi. Anche lei ha avuto dei problemi. Dai. Ha avuto sempre dei problemi. Dai, ecco, lo sapevo che diceva. Sempre dai. Vabbè. Sempre dai. Anche lei ha avuto dei problemi con la signora Moratti sulla partita dell'Expo, no? Non lo voleva lei, sto Expo. Costava troppo. O sbaglio. Ma dai. Adesso andate, non avete altre argomentazioni? Vi ho detto chiaramente che la sconfitta c'è stata, sì, che ne parleremo, che ci confronteremo, però adesso non mi sembra il caso di andare a inasprire un momento che è decisamente particolare per il nostro ecco partito. L'alleanza con la Lega resta stabile, solida? Qui abbiamo l'onorevole Speroni, eurodeputato. Non vedo perché le cose debbano cambiare. Ripeto, come le ho detto, guardi, mi secca ripetermi, ci confronteremo e ne parleremo. Si va avanti. Si va avanti, Berlusconi, abbassi le tasse, però se può, dai. Ma ministro, che c'entra adesso che devi dirgli abbassi le tasse? Lo chiedo al ministro, perché secondo me sono semplificazioni, io lo dico. Solo ed esclusivamente di demagogia, abbassare le tasse. Lorenzo, dai, lo sa anche lei, per favore, dai. Scusi, la disturbiamo ancora per qualche secondo. Berlusconi ha appena detto da Bucarest, il Presidente del Consiglio, che la città non era amministrata male, Milano, vabbè, questo evidentemente i milanesi hanno un'idea diversa, e ai milanesi non resta che pregare il buon Dio che li salvi. Che vuol dire? Lei riesce a interpretare meglio di noi Berlusconi, signor Ministro? posso interpretare la frase come la interpreta lei, Cucciani. Cioè? È una battuta a caldo. Non mi sembra il caso di andare a, ripeto, a inasprire dei toni che in questo momento siamo a caldo. Più che parlare di sconfitta, io le ripeto, staremo a vedere, il tempo è galantuomo. Il tempo è galantuomo. Vabbè, abbassiamo le aliquote oltre che il tempo galantuomo. Ma ancora costa abbassare c'è l'aliquota del 43%, abbassiamo le aliquote, la prego. Vabbè. Comunque, la rivoluzione fiscale. Grazie, grazie signor Ministro. Saluti. Grazie, buona serata. Signor Speroni, buonasera anche a lei. Buonasera. Ha sentito buonasera. Allora Tremonti? Ha sentito eh? Tremonti, sì. Abbiamo perso. No? Abbiamo perso, bisogna riflettere sul perché, cosa fare per non continuare a perdere, insomma. Cioè, ha capito il commento? Cioè, è d'accordo con l'analisi del ministro Tremonti, visto non abbiamo scherzato perché non si poteva. Dall'analisi di Tremonti la condivide lei? Sì, sì. Cioè, era un'analisi... questa roba della sinistra globalizzante che ha vinto po'. La sinistra globalizzata no. Insomma Pisapia viene da Rifondazione Comunista, non saprei più di sinistra di lì cosa ho capito ma sono. Che succede a Milano quindi lei è d'accordo con l'analisi di Tremonti di poco fa. Va no bene. Ma che succede a Milano con Pisapia, io questo vorrei capire, cioè così di drammatico. Mi sembra di averlo già detto vabbè. Cioè intanto poi bisogna vedere perché certi che magari erano estremisti poi si moderano quando giungono nella stanza dei bottoni. Sì. Ripeto, guardando il suo passato, guardando gli alleati sì. che si ritrova, io penso che ci potrà essere una minor severità con i centri sociali, sì. una maggior tolleranza nei confronti dei campi nomadi sì. abusivi. La sicurezza non lo so, perché mi sembra che abbia detto di disarmare addirittura la polizia municipale. Sì, questo... la polizia municipale meno compiti di sicurezza. Di... Ecco, quindi vuol dire meno sicurezza, perché di sicuro poliziotti, carabinieri, guardie e finanze rimarranno quelli che sono. Non è che aumentano a Milano perché Pisapia ha detto che la polizia locale avrà altri compiti. No, non avranno compiti. Sarà... Sì. E ci sarà meno sicurezza. Ma adesso questo, meno sicurezza. Più, multe meno... per divieto di soldi, più rapine, più rapine. Anche quella, insomma. Va bene, grazie. Intanto Berlusconi dice ancora di mettermi, figurarsi. Traffico. Grazie, signor Speroni, grazie. Eccoci qui. Berlusconi dice non ho colpe e non allargo la maggioranza. Beh. Calderoli, noi tornati nei mercati, altri no. E cioè tutti se la pigliano non con se stessi, ma con gli altri. La Lega dice è colpa del PDL. Bellissima Berlusconi lettura. Dice non ho colpe, ce l'hanno i candidati, molto probabilmente. Tutti contro la Moratti praticamente. Sì, ma. Eh beh sì, perché Berlusconi lei... contro i candidati. Calderoli la Lega contro che il PDL, dice contro in generale, il PDL che non si è impegnato. Comunque la colpa è del PDL, la colpa è di Berlusconi. Ci diranno che anche Gigi D'Alessio. Poi senti qua, Berlusconi, nessuna sorpresa, risultato atteso. Ma come atteso? Risultato atteso non mi pare. Risultato atteso. Forse dopo il primo turno. Vabbè, adesso comunque, è atteso. È normale, si tratta della minimizzazione del danno sì, per tornare alla, a una terminologia sul come tema la della droga. Del danno, della droga certo. Andrea da Vicenza, buonasera. Buonasera. Dica. Due cose. Beh, intanto voglio sapere se bisogna avere quanto bisogna dichiarare per poter parlare con voi, perché i signori di prima veramente mi hanno fatto cascare. Cioè? Ah, lui è uno solo i grandi contribuenti, evidentemente. Ah, i grandi contribuenti, sì, sì, sì. Che vuole fare. Veramente, io di solito gli si dà del pazzo, di solito Parenzo mi sembra che. No, ma in questo caso non si era capito no, bene era un il, po' collegamento, cioè, anche nel, da... il collegamento no, appunto, tra appunto era così tra la dichiarazione dei redditi che... e l'indignazione, cioè sì, ha capito? Appunto, cioè, no, si può capire, dice io pago tasso, così era. No, lui dice lui diceva, immagino che volesse dire questo. Io sono uno che paga un sacco di tasse e devo sentire questi politici inconcludenti, sì, eccetera, ma anche uno che paga meno tasse di lui ha gli stessi diritti, ma comunque insomma, lasciamo perdere. Che vuole dire? Io volevo solo dire, comunque, che se ne dica, questa è una sconfitta di Berlusconi, punto. Vabbè, adesso ha sbagliato tutto, ha fatto una campagna allucinante, come ha sempre fatto, però stavolta la gente probabilmente si è svegliata nel sogno e basta, punto. Cioè, non c'è, secondo me, tanti commenti, non so neanche da fare. Come lotta a Berlusconi, ancora lotta a Berlusconi, ma però, lotta, lotta dice? Come un leone. Cosa dice? Lotta come un leone, sconfitta non a causa del governo. Ma sì, è questione di giorni comunque, secondo me, ore, giorni, addirittura adesso, di ore, addirittura questione di ore. Beh, possono essere anche 100, 200, insomma. Poi bello che Berlusconi dice lettura politica, non sono d'accordo, ma come? Insomma, all'inizio della campagna elettorale è un referendum su di me, vabbè, come, come quando si perde ai rigori è sempre colpa di qualcun altro. Allora? Niente, tutto lì, volevo solo dire che la sconfitta è grossa, insomma, è una roba vabbè, è quello, l'avevamo capito. Da campionati del mondo festeggiare in giro, insomma. Va bene. Ma addirittura venga a Milano. Ah, lei sta venendo da Vicenza a Milano per festeggiare? Cioè, adesso da campionato del mondo mi sembra una cosa ridicola, francamente. Venga, siamo in tantissimi, è pieno di islamici, di rom. Non paragonerei i festeggiamenti per i campionati del mondo ai festeggiamenti per un'elezione politica, di qualsiasi segno essa sia. Anche esagerare ogni tanto. Ma sì, ma per carità, poi non è che criminalizzo. Sì, no, chi... poi è bella, questa passione politica è bella, mi piace, è sana, è pulita, è pulita, ma... gente per bene che sta chiamando, c'è aria fresca. Il nostro amico Fontana, europarlamentare della Lega Nord, Attilio Fontana è il sindaco di Varese, mi ero confuso con il mio amico Fontana, Lorenzo Fontana. Ah, Lorenzo Fontana di Verona, come non sì, europarlamentare, in realtà Attilio Fontana ha detto che la Varese è la nostra Stalingrado. Chi l'ha detto? Fontana, il nuovo sindaco, riconfermato con qualche difficoltà, ma riconfermato. Da un certo punto di vista ha ragione, è il Mugello della Lega, Varese, quella zona lì. Paragonerei piuttosto Varese a Stalingrado. Benissimo. A me questa cosa di Stalingrado mi fa impazzire, perché è uscita fuori da Berlusconi. Ma in realtà è la resistenza, è una cosa drammatica a Stalingrado, che non paragonerei a nessun tipo di elezione politica truce di oggi. Bene, dobbiamo chiudere, come sentite dalla... No. Prolunga un po'. No, è che devo prolungare, no? Sei impazzita, se vuoi prolungare. Ma la zanzara ha la sua giusta misura. Sennò è troppo, bisogna storpio. Né anticipare. Poi sto Parenzo un po' da noia anche a me. No, anche io mi annoio. Parenzo è fondamentale. Io mi annoio di me stesso alle volte. Ascoltami, annoio. Vabbè, comunque. Caro Mimmo, caro Enzo, caro Renato e caro Amedeo, dobbiamo rimandarvi, se volete, a domani. Amedeo Duca d'Aosta era? Come concludiamo? Enola Gay? Eh? No, Enola Gay, no. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti popolo, fuori l'islamico, rivoluzione. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. La zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.